Barisone è diventato vicepresidente, né? Crucia, è inutile che lei fa il saputello, lei rimarrà anche fra 10 anni a dire tonnellate di male parole con la sua trasmissione, con il pezzo di merda che c'ha a fianco. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Oi, buonasera Peppe. Sono andato lì dove è stato ammazzato il porco maiale, attentatore, suicida, a Sesto San Giovanni, una pisciata ci ho fatto sopra lì. Ah, che pisciata! Glielo spello. A Parenzo, a coglioni, se fai parlare! Fammi parlare, allora è facile parlare lì col culo seduto sulla sedia, tra parentesi chiacchierato come il tuo roscio che non sei altro, è facile manganellare quando tu c'hai le tue chiappe sedute al calduccio, tra parentesi chiacchierate, ma questo è un tuo problema, non è mio, a noi ci piace la patata. Ma fai sta zitto sto frociaccio, sta che serica, che serica, taci! Allora, questa storia di Uber ci ha rotto veramente le scatole per non dire i coglioni. Il problema è che sto guidando, c'è le persone in macchina e mi stanno pagando anche con la carta di credito. Questa è la risposta a chi dice che noi non siamo attrezzati, che non abbiamo l'app, non abbiamo i radiotaxi, non abbiamo i mortacci vostri, perché qua ci avete rotto i coglioni. Noi siamo pieni, pieni di debiti, di sto stato di merda che ci ha rotto i coglioni. I passeggeri per fortuna sono stranieri. And the pay cash or on the car? The pay, cash and card. Card. Caro David, siamo carichissimi, carichissimi, amico mio, siamo molto carichi. Il regista è il solito, il regista. Che male t'ha fatto, scusa. Aspetta che vengo a Milano. Allora ragazzi, iniziamo oggi con un mitico scazzo tra la signora Mussolini, deputato della Repubblica, e un signore che si chiama Martinelli, che magari a voi non dice molto, un signore che è stato un militante dei 5 Stelle, che oggi è un sempre simpatizzante dei 5 Stelle e fa varie ospitate televisive. Signor Martinelli, che noi conosciamo bene, caro Parenzo, è stato ospite anche qualche volta in questa trasmissione. Allora, per la prima volta in una trasmissione, da quando la signora Mussolini, dalle vicende dello scandalo del marito, è tornata in televisione, di fronte alla signora Mussolini ha parlato proprio del marito e della prostituzione minorile. Sapete, il marito della signora Mussolini ha patteggiato qualche tempo fa, forse più di un anno fa, per la storia delle minorenni. E lo ha fatto in realtà un po' a freddo, devo dire la verità. Lo ha fatto ricordando, si stava parlando di sicurezza in generale, cioè non è che si stava parlando né di prostituzione minorile, eccetera, eccetera. Ma non voglio prendermela con Martinelli. Sentite quello che è successo. Ovviamente lo studio è quello di dalla vostra parte. Stava a sentir. Dalla vostra parte. Allora faccio un esempio. Io sono papà, no? Metti caso che ho una figlia minorenne, arrivo in casa mia e mia figlia minorenne è a letto con un attempato cinquantenne. Prendo da un raptus, prendo la pistola e ammazzo il cinquantenne. Questo cinquantenne scopro tocca è il marito della Mussolini. Cosa dice la Mussolini? Avrei fatto bene a sparare a suo marito? A letto con una minorenne? Ma che c'entrano? Non la metti sul piano politico! Si vergogni Mussolini, si vergogni! Schifo? No, fa lei schifo! Stronzo! Capito, si tenga lei le parolacce. Mia figlia minorenne, perché se suo marito ci va a letto e gli sparo, faccio una cosa giusta? Questo è un attacco politico. Farei una cosa giusta? Vai a fare in culo. La signora Mussolini, vai a fare in culo, fai schifo. Si parlava di sicurezza. Lui ha fatto un esempio, ovviamente, per provocare questa reazione della Mussolini, dicendo: se io trovo un cinquantenne a letto con mia figlia minorenne, che cosa faccio? Sparo? Sono autorizzato a sparare? Devo dire anch'io. per carità, la provocazione va bene, Martinelli. No, ha avuto la trovo una cazzata proprio. Una cazzata la trovi tu? La trovo, sì, ma non voglio difendere Mussolini, sai che non ma, è che capito, però, ho una grande distanza. O la difendi o la difendi in questo la caso? In questo caso, nel merito, certamente la difendo perché è un esempio che non c'entra niente. È un colpo basso, stupido, fatto a una signora che sicuramente, in questo caso la donna Mussolini, non la politica, ha sofferto per tutta quella vicenda. Ma sono fatti suoi che nulla hanno a che vedere con la sua attività con politica. Con le sue posizioni politiche. Ma no, che poi non è lei coinvolta, semmai è il marito. Ma che la Mussolini continua, va giudicata... a vivere, continua a vivere con, però con questa lei. Questa è una scelta privata sua, sì, sul sì, dolore, no, su quello che è avvenuto in quella famiglia. A me non mi, non mi interessa. Io giudico gli atti della signora Mussolini, cioè, gli atti dici, politici. Può parlare di attacco, sicurezza, può parlare, ma può di parlare sicurezza di quello altre che cose. Le pare, e io la contesto nel merito di quel che parla. Ma mai mi sognerei di farle un attacco personale stupido a lei, peraltro, che non c'entra nulla con le vicende che riguardano il suo marito o ex marito. Non mettiamo mi interessa ancora neanche, Martinelli contro Mussolini. Martinelli ha detto una cazzata, ma micidiale proprio. Non sa dire altro, veniamo ai fatti. Non fare le sceneggiate in televisione, io parlo dei fatti. Calmatevi, calmatevi. Le faccio degli esempi pratici. Non può consentire che uno stronzo. Certo. Martinelli, per favore. Martinelli, Martinelli, per favore. Perché si dovrebbe vergognare? Non ho capito, ecco, questo non ho capito bene. Magari glielo chiediamo a Martinelli, perché si dovrebbe vergognare la Mussolini? Certamente proverà vergogna per quello che ha fatto il marito, su questo non c'è dubbio. Ma questo sono fatti fatto loro suo privati. Privato. Non può parlare pubblicamente di che cosa la Mussolini. No, ma la vergogna no, questo... è quella di Martinelli, che gli ha fatto un attacco scomposto e non politico, perché l'ha attaccata delegittimando le sue posizioni su un piano personale. Cioè dicendo che il marito è uno sporcaccione. Esattamente, ma che riguarda il marito, è un attacco peggio, personale. Quasi un pedofilo ha detto, cioè. Se è andato con la minorenne. È un attacco vergognoso personale per smontare e screditare un nemico politico. Ma è una cosa allucinante. E te lo dico io che insomma. Io Mussolini, mi fatti, adesso voglio evitare risse. Calmatevi. Di quello che dice in televisione. Vabbè, andiamo, scusate, vi tolgo a tutti quanti il microfono, quindi state una, cerchiamo di calmarci. E poi se n'è andata, no direttore, andiamo un cazzo, e se n'è andata. Allora, come sapete, l'altro giorno una serie di immigrati, ragazzi, e poi uno dice che l'immigrazione viene gestita bene, è veramente una cosa incredibile, l'abbiamo ricordato anche ieri. Ci sono una sessantina di immigrati che vengono caricati su una nave della Tirrenia a Cagliari, direzione Napoli, e devono essere portati a Napoli. Tra questi qua una trentina di persone con un foglio di via, questo famoso foglio di via, in cui tu hai tempo una settimana per andartene. Una cosa incredibile, cioè non vieni imbarcato, non vieni portato all'aeroporto, messo su un aereo e te ne vai. No, c'è un foglio di via in cui ti devi allontanare dal paese. La maggior parte delle persone se ne sbattono i coglioni, ci si puliscono il sedere con questo foglio di via e non fanno assolutamente nulla. Questi qua vengono imbarcati insieme alle persone normali, dico normali, cioè persone che non sono immigrati e non sono portate lì dalla questura, non perché gli altri non siano normali. E ovviamente uno si aspetta che vengano protetti un po' dalla polizia, no? Cioè vengano, sì, che ci sia della polizia che si imbarchi con loro, oppure che vengano tenuti, non lo so, in alcune stanze separate, che ne so, sotto sorveglianza. Comunque sono delle persone un po' in qualche modo da tenere lontano dagli altri passeggeri. E invece no, ovviamente succedono delle cose. Traghetto danneggiato, persone minacciate, persone molestate, eccetera, eccetera. Poletti si trasforma in commentatore, il mitico Poletti dalla vostra parte, senti. Se io e te ci rendiamo protagonisti di un episodio come questo, quantomeno ci mettono in gattabuia, no? Allora, 60 persone che si permettono di fare il bello e il cattivo tempo su un traghetto, tra l'altro persone ospiti sgraditi che devono tornarsene a casa loro, a calci nel culo e poi in gattabuia. Scusa. Poletti. E il giornalismo anglosassone, il giornalismo asettico. Voglio ricordare, no, ma ognuno, sì, ma perché ospiti da... sgraditi. Sì, oh, ospiti sgraditi. Vabbè, sì, se ne tornano a casa loro. Ma siete candidati tu e lui con sovranità? No, no, voglio ricordare. No, io non c'entro niente con sovranità. Guarda, ti posso assicurare che non sarò. Posso dirti una cosa? Non mi candiderò mai né con sovranità né con alcuna forza politica. Voglio ricordarti che però Poletti per 2 anni è stato deputato dei Verdi, non proprio della destra. Sappiamo, dei signori Verdi. Verdi. Allora, si parla ancora della frase di Salvini, quello della pulizia, no? casa per casa, bisognerebbe fare pulizia casa per casa. Dire scioccante, no, ma va là, ma non esageriamo, ma non esageriamo. Voleva dire che cosa? Che bisogna fare controlli casa per casa, continui controlli, i più accurati possibile, i più capillari possibile, cioè bisogna controllare casa per casa, è un modo di dire. Ovviamente non è possibile controllare casa per casa, questo lo facevano i nazisti all'epoca, ecco, ma non si può fare. Ma c'è secondo te una leggera allusione, non che lo voglia fare, ma figurati, voleva solo divertirsi, dai, ma figurati. Signor Salvini, senti, sentiamo come ieri. Hai la capacità di mandare tutto in vacca e di sminuire anche le frasi razziste, di non dire chiaramente. Ma che cos'è il razzismo allora? Dimmi un po', ma cos'è? Che razzismo non è, ma questo, cos'è, dai, il razzismo, è una cosa un po' più seria di Salvini, dai. Ma cos'è? Forza. Cos'è? È il Ku Klux Klan. Nella quali razza, parole la sono razziste? La diversità di razza, ma cosa, neri ma e poi di, i neri sono inferiori, i neri sono inferiori. Dai. Quando uno dice sono orgoglioso di essere razzista come il mitico Gio Formaggio, quello è razzista perché lo dice anche lui. Lo dice anche, meno male, se no non sappiamo più cos'è. Vai. E si fa metro per metro tutto un quartiere romano. Ma per quanto mi riguarda, lei sta in un condominio, sì. Immagino, ci sono tante case occupate abusivamente da questa gente. I vigili urbani, non le orde naziste. Vabbè, con le camicie possono lune. Suonare, ma suonano non al apre. Campanello. Non sì. Apre. Suonano al campanello, che lei chi è? Sono Tizio e Caio. No, al no, contratto, dice, sì o no? No. Hitler è morto. Siamo in democrazia, io chiedo che le forze dell'ordine possano fare tranquillamente il mestiere che poliziotti e carabinieri stasera non fanno tranquillamente, perché lo Stato italiano e la giustizia italiana, se deve scegliere fra un poliziotto e il ladro, purtroppo spesso e volentieri condanna il ladro. Quando è che chiudete, cornuti? La Zanzara. Semplicissimo, se volete insultare Mauro Mantova che è passato a Radio Padania, o volete dire in quali piazzole di sosta ci sono i gay, o se vi garba volete mandare a cagare Parenzo in diretta, 800 24 0024. Se invece volete parlare dei vostri glory hole, o volete dire come si fa a scopare senza spargere il seme, o se vi garba volete mandare a cagare Parenzo in differita, 393 71 71 701. Siamo al super top. Diciamo che no, voglio dirti un attimo questo però. La cosa che mi fa arrabbiare, non incavolare, di questo signore è che il maledetto lo aggiorna in base ai temi che via via si dipanano, certo, in questa trasmissione. È la malattia della zanzara, certo. Ecco, cioè lui lo aggiorna, non è che lo lascia fermo alle vecchie cose, lui aggiorna, certo, in base alle cose. Quindi lo aggiorna, cioè aggiorna lì, però lascia ferma, sempre c'è, cioè una parte si chiama salario accessorio e il salario fermo, no? Lui lascia la parte variabile, la aggiorna con le novità. Lascia sempre ferma una cosa, sempre insultare Valenzo. C'è, esatto, c'è un denominatore comune che il maledetto, perché così va chiamato a questo bugio, genio, il maledetto, genio, il genio maledetto ascoltatore, ma non ha niente da fare tutto il giorno, ma cosa fa? Poi ma dove le manda ste robe qua? Dove le manda? Al sto numero infame. WhatsApp, dai, su. Sto infame. Sempre Salvini. Se volete mandare, ma dai ragazzi, sempre su. Salvini, mandato per sfondare la porta, non sono un agifascista, vai, vai, vai, vai. Sfondano la porta. Se io penso hanno che in quell'appartamento sia, ci siano dei delinquenti, sì. Il giudice dà un mandato, ma, un mandato di massa, ma scusa, ma di per cosa sfondare stiamo... tutte le porte, no, in cui si pensa lei, che c'è un irregolare. Sta cercando di fare un discorso serio? Sì, seriamente. Vuole dire che Salvini è un nazifascista? No, no, ma lei dica, no, io vorrei capire come fa la pulizia, perfetto, di massa. L'Australia, Salvini e l'Australia. In Australia addirittura hanno affittato due isole che il governo australiano paga. Io ti becco, tu non mi dici chi sei perché non hai voglia di dirmi chi sei. Io ti lascio in quell'isola fino a che non ti viene voglia di dirmi ha chi già sei. Individuato ora l'isola. Io non sto pensando a queste, se no figurati Caprarica si sconvolge. Come lotta Caprarica, come lotta contro Salvini. Caprarica odia Salvini, diciamo la verità. No, ha delle posizioni diverse. Signor Caprarica non lo sopporta, dai, pensa che sia un fascista, un nazista, eccetera. Il signor Caprarica, col cravattino, ex corrispondente Rai da Londra, ricordiamo, sì, certo, perché io, con la barba, grande coltissimo, cronista, sì. Coltissimo. Sì, un grande cronista. Si dice. usciamo. Le sto dicendo. Perché deve dire usciamo pulizia da qua di massa? Perché andiamo, perché andiamo in stazione Termini a Roma. Quanti delinquenti ci sono fuori dalla stazione Termini? Li porto via allora tu. Un tassista, ci sono le bombe per far sentire che noi siamo qua. Tanto è finito tutto per fortuna, eh. Ci sono le bombe per far sentire che noi siamo qua. In realtà hanno vinto loro, eh. Perché hanno un mese di tempo sostanzialmente per riscrivere tutta la legge, tutto il provvedimento, eh. Cioè, facendo quel casino, hanno vinto i tassisti. O gli ambulanti, adesso non so, principalmente i tassisti. Perché adesso in un mese possono dire noi vogliamo fare questo, questo, questo e quest'altro. Ma avete fermato le città? La sì, ma forse non ha capito. Le città le fermano tutti, quando la fermano i tassisti ci abbiamo tutti contro. È una cosa assurda questa. Ci sono le bombe! Solo per farci sapere che noi siamo qua. Le bombe per far sentire che noi siamo qua. Pazzesco. Ragazzi, volete sentire qualche voce del Partito Democratico per farvi venire un po' più di depressione? Volete deprimervi con notizie del Partito Democratico? Sì, io sono depresso. Ti vuoi deprimere o no? Ti vuoi deprimere di più? Vogliamo far abbassare lo share di questa trasmissione? No, ma quale abbassare lo share? Adesso vogliamo rendere tutti tristi? Vogliamo intristire le persone? Vogliamo far sì che le persone ci vomitino addosso tutto il loro... No, ma costruiamo un grande racconto politico partendo dalla piattaforma di Speranza. La frase di D'Alema. Non sono aggrappato alle poltrone, vi giuro, ha detto così D'Alema. Non sono. Beh, l'unico motivo per cui odia Renzi. No, diciamo la verità, noi bisogna dirla tutta. Poi basta, non voglio più parlare di D'Alema. Il vero motivo per cui D'Alema odia Renzi è che Renzi non l'ha nominato alla Commissione Europea. Se lo nominava o alla cosa lì, se lo avesse nominato al posto della Mogherini lì al quell'assurdo, non avrebbe detto nulla contro Renzi, niente. Ma è sicuro al 100%, guarda, al 100%. Ma come dice D'Alema, ma guarda, non credo proprio, un cazzo, dai. Non sono mai stato molto aggrappato alle poltrone. Io mi dimisi da Presidente del Consiglio. Vabbè, te credo, hai perso le elezioni europee. No, con una regione, avevano perso una regione di differenza. Uno si dimette quando non c'è più la maggioranza. Dai, su, quando la maggioranza in Parlamento non c'è, non diciamo stronzate, dai. E dai. Lorenzo da Roma, vai, iniziamo, apriamo le cataratte, vai, Lorenzo. Eccola, buonasera, manca dire i complimenti alla trasmissione. No, vai. Siamo sul breve. Io sono un povero chirurgo da qualche annetto, una trentina d'anni, e mi corre l'obbligo di dire una cosa che, attenzione, mi corre l'obbligo, dimmi. Non è assolutamente un qualcosa contro una popolazione che pratica sesso in tutti i modi possibili e immaginabili, cioè né gay, né etero, nient'altro. Ma vi siete mai chiesti come mai proprio la popolazione gay, soprattutto nei primi anni Ottanta, è stata falcidiata all'AIDS? Perché nessuno se lo chiede, ma qual è il motivo? Cioè, cavolo, perché proprio loro? Beh, sì, lo sappiamo benissimo, per il sesso anale, certo, per i rapporti. No, quella è una parte della causa, perché la violenza della penetrazione anale. E perché cosa? Perché cosa? Perché è un concetto che si chiama quello di superinfezione. Guardi che questo non, di solito non lo dicono. Vabbè, ma che cosa vuoi dire con questo? Che cosa voglio dire questo, che l'eccessiva promiscuità, io non vado a fare il moralista, chi se ne frega. No, però? L'eccessiva promiscuità sessuale, perché gli gay, soprattutto nei primi anni Ottanta e anche adesso, hanno l'abitudine di cambrare molti partner. Sì. Adesso questo qua appartiene anche al mondo eterosessuale. Anche Cruciani. Sì, assolutamente sì. Adesso chiedo scusa se entro nel merito, ma mi pare evidente anche questo. Cioè, tu stai dicendo che. Attenzione. No, vabbè, tu stai dicendo una cosa molto semplice. Cioè, che i gay che c'hai a radio accesa, che c'hai, Lorenzo? No, spenta. No, sentivo un ritorno, eccetera. Tu stai dicendo che sostanzialmente i gay sono vittime di AIDS più degli eterosessuali. Allora, per precisione scientifica dico che chiunque abbia rapporti, chiunque, promiscui molto ripetuti, quindi due, tre, cambia spesso il partner alla settimana, quello che sia, spesso anche in serate. Ma scusa, ma che ne sai che sono più promiscui? Scusa, che ne sai? Ah, questo non lo so. Che ne sai che i gay sono più promiscui? Perché hai visto quelle orge lì di quel club lì? Di quel club lì abbiamo visto le orge lì. Ma guarda che ce ne sono una marea di club eterosessuali dove fanno le ammucchiate a mille. Per carità di Dio. Però la media, purtroppo, di AIDS, aggravata dal fatto che il rapporto anale è questo, ha portato a questo fatto. Vabbè, ma allora? Si chiama concetto di superinfezione. La superinfezione. Si chiama superinfezione. Ma no, che super infezione superiore. Ma quello, tu, per esempio, da chirurgo pratichi il sesso anale? Tu? Certo. Sì. Con protezione o senza protezione? Che c'entra? Lì dipende con chi lo faccio, con le femminucce normalmente, quindi però ognuno ha le sue, amico mio. Ah, beh, sono un birbaccione parziale. No, amico mio, anche senza protezione, con partner fisso senza protezione. Sì, con partner fisso senza protezione, anche con partner occasionale. Ogni tanto. Non sono, devo essere sincero, per pigrizia e per tanti motivi non sono eccessivamente promiscuo. Questo no. Non sei promiscuo. No, non sono eccessivamente. Sei un parenziano, sei parenziano, insomma, sei parenziano. Sono abbastanza tranquillo, sì. Sei parenziano, si può dire, no? Sei un parenziano. Comunque, non lo so, non ho idea, guarda. Sei monogamo, hai questa comunque, malattia della monogamia. È una cosa cattiva, però una cosa cattiva me la fate dire. Dilla. Che questa omissione, perché è ovvio che questa piccola omissione del perché tutta la popolazione, ed è innegabile che sia stata più falcidiata, sì, ma non è una missione di classe, qui, cioè in che senso? Non ho capito. Anche i miei colleghi medici, soprattutto quelli che hanno fatto una grossa carriera grazie all'AIDS e alle varie campagne, alle varie state in giro, ecco, omettono perché la popolazione... Perché omettono? Omettono perché, caro amico, la popolazione gay è una lobby abbastanza importante. Fermo là, fermo lì. Ecco. Perché a noi la qualità ci ha rotto il cazzo! Siamo il top! Ma va suca! La zanzara. Ciao Crociani, ormai per mettere a posto l'Italia ci vorrebbe quello della Corea del Nord, Chung-Chung-Kai, come cazzo si chiama, solo quello può mettere a posto le cose. Parenzo, vaffanculo. Beh, a parte che volevo dirti che comunque la zanzara è un pompino radiofonico straordinario, siete straordinari. A Crociani, te invece rappresenti sto cazzo, ecco che rappresenti. Allora, non ho capito il primo ascoltatore che diceva di volere Kim Jong-un in Italia, che come dire che sarebbe un'ipotesi, ecco, con tutto il mio amore per il caos, no? E sarebbe un'ipotesi francamente non particolarmente gradita nemmeno al sottoscritto, cioè, sarebbe una tragedia assoluta, quel signore col ciuffo lì con la che comanda tutti con le testate nucleari col ciuffo, no ragazzi, quello no. E però il vaffanculo a Parenzo Finale, non l'ho capito qual è il collegamento. Ma quello così tanto per sport olimpico ormai. Allora, a proposito di gay, di saune, di quello che è stato scoperto, i finanziamenti pubblici a questa associazione dove dentro si fa del sesso, anche prostituzione, come abbiamo visto, Sgarbi. Beh, amici miei, amico mio Sgarbone a Matrix, era atteso, era prevedibile, per questo non l'ho chiamato ieri, era abbastanza, cioè immaginavo già da un tweet che aveva fatto, anzi no, da un post su Facebook che aveva fatto, beh, immaginavo lo Sgarbi scatenato. Andiamo a sentirla, amico mio, andiamo a sentirla. Se entra un'associazione che riceve soldi da Lunar per evitare discriminazioni, non si praticano in qualche modo seminari o incontri, ma si pratica l'attività di metterlo nel culo a un altro, quello si chiama attività sessuale o prostituzione, che non deve essere assistita con i soldi del ministero, cioè i nostri, delle nostre tasse. Prendilo del culo e non rompere i coglioni. Mi sembra però, da questo punto di vista, che la pensi come noi, diciamo, l'ha espresso a modo suo. Però tu, gay, lo vuoi prendere nel culo? Ti piace il sesso? Ti piace l'orgia? Benissimo. Ti piace il glory hole? Cioè, ti piacciono le perversioni che succedono anche, voglio ripeterlo, nei club per eterosessuali? Va benissimo, stupendo, meraviglioso. Però, amico mio, quell'associazione lì, di riffa o di raffa, non prende un euro dallo Stato. Sì, dicono, certo, abbiamo preso i soldi, però non li usiamo per quello. Li usiamo per fare i convegni, il telefono antiviolenza, il telefono antidiscriminazione. Sì, vabbè, ho capito, ma sempre finanziamento pubblico è alla stessa associazione nella quale poi comunque si fa dell'altro, in cui si fanno carrettate di soldi carrettate di quattrini, giustamente. O se uno ha un club, David, scusami un attimo, se uno ha un club, fa entrare le persone con un biglietto, guadagna sulle bibite, guadagna sulle consumazioni, guadagna su quello che ti, anche sui massaggi, perché non è che è illegale fare i massaggi, no? E quindi non puoi incassare soldi pubblici dall'altra parte, cioè, ma ci mancherebbe altro. Uno dice incasso soldi pubblici per fare i convegni, però amico mio, no, hai tanti soldi che prendi dagli incassi, dalle tessere eccetera eccetera, non puoi fare prendere i soldi pure per quella roba lì, no, per fare le cose antidiscriminazione. Ma certo. E poi perché non possono entrare le donne, per esempio, in questi club? Siete contro le discriminazioni? Dovrebbero entrare tutti dentro questi club, non solo i froci. Sgarbi, il pompino è tranquillo, bello e nobile, ma questo progetto non finanzia quello. Sgarbi, ti ho le carte qua. Il progetto non si chiama Sgarbi. Pompino, mi Sgarbi. Facevano pompini. Sgarbi, cerca di capire cosa finanzia questo progetto. Non è un pompino, anche se è orale. Sgarbi combatteva con uno dell'Andos, che è questo, questa associazione sotto attacco, diciamo, no? Che si chiama Coco, signor Coco, Coco, che però rispondeva, sì, rispondeva. Tu sì, sottolinei sempre quando io parlo in questo modo, signor sì, Coco, signor, esatto, perché sembra sì, che lo voglio prendere per il culo, io toglierei no? Il sembra, toglierei il sembra. No, no, diciamo, no, no, no, no, dai, senti ancora. Quello diretto in una stanza si chiama pompino. Bene. E non richiede. Va bene, scusa, ma dicendo, hai qualche voglia nascosta che parli solo di queste cose? Scusa, Sgarbi, abbi pazienza, ne parli troppo. Sgarbi, hai qualche desiderio nascosto? Te lo chiedo proprio. Di parlo cosa stai parlando? Pratico serenamente. Vieni, e nessuno mi assiste. Dovresti proprio venire quando sono ai nostri circoli. Nessuno mi assiste. Io non capisco, i pompini Sgarbi della tua associazione sono pagati. Sgarbi, da noi. Pagateli voi. Pagatevi i pompini. Discorso di Sgarbi è molto semplice. Pagatevi voi il sesso che fate nella vostra associazione. Non dobbiamo dare noi 55.000, 100.000, 200.000. Peraltro è stato tutto sì, bloccato. Sì, su questo ha perfettamente ragione. Sì, però adesso io non voglio, per carità, lo sai che se mi sta sui coglioni a me di queste associazioni gay? Una sola cosa, le Iene fanno un servizio giornalistico in cui dimostrano per la prima volta che la presidenza del Consiglio dà 55.000, o vorrebbe dare 55.000, e ha già dato nel passato dei soldi ad alcune associazioni omosessuali per promuovere attività culturali. Per me dietro queste cose c'è sempre un'enorme truffa. Basta con i finanziamenti pubblici per le attività culturali, basta, non servono a beh, nulla. Dipende, non questo, servono dai, dietro, dipende spesso quali ci sono attività delle culturali. In particolare, se questi qua fanno i soldi, se questi fanno i soldi per, con altre attività, che sono quelle, come dice Sgarbi, del pompino, del sesso, va benissimo. Ci sono alcuni club sponsorizzati dall'Andos che prende soldi dallo Stato, dove c'è gente incatenata, dove c'è gente con tutta imbardata di pelle, va benissimo, per carità, però non con i soldi nostri, dice Sgarbone. Ma no, quello certo. Però il problema è che adesso queste associazioni fanno passare le Iene per un programma omofobo, dicono ah una vergogna le Iene, uno scandalo, cioè non si può dire nulla che vieni tacciato di omofobia, ti giuro, ci sono alcuni siti che attaccano le vabbè, Iene, sbagliano, ma siete è ovvio, omofobi, ma che fate passare un'inchiesta e basta, non c'entra niente, omofobia non omofobia, ma che cazzo, ancora Sgarbone dai. Poi non capisco perché un'associazione in cui, come la mia, in cui si pratica l'attività sessuale, diciamo, posteriore con donne, non è assistita. E anche quelle sono categorie che vanno tutelate. Cioè l'attività sessuale di un uomo e una donna che praticano quella che si chiamava sodomia, per nobili principi culturali, non è assistita. Va bene ragazzi, andiamo, dove andiamo, dove andiamo, dove andiamo? A Maurizio da Firenze, Alfredo da Roma, vai, Alfredo da Roma, vai. Buonasera signor, buonasera. Dimmi, sono dimmi Alfredo, Alfredo, dimmi. Sono noleggiatore. Sì, NCC, qui a Roma. NCC. NCC, qui a Roma sta succedendo qualcosa. Sì, abbiamo sentito, abbiamo visto insomma. A Via del Corso sì, hanno minacciato, sai da sì una nostra collega stava lavorando, ha dovuto far intervenire i carabinieri e più la squadra vetture. Addirittura, sì, dunque ci stai segnalando sì, una cosa grave che è accaduta, cioè una... Ma non è questo. Sei tassisti che hanno minacciato una tua collega NCC, perché sì, l'avrebbero minacciata, in che modo? Perché c'era la licenza fuori Roma, che deve andare fuori, cioè le solite cose, che non deve lavorare a Roma. Beh, adesso, amico mio, se uno non sta se uno ha la licenza presa a Capranica o presa a Bari... certo che se viene a Roma quelli si incazzano, sì, non, so, bene, però, non so se sia vietato o no, no, ma... no, ma lei no, aspetti, lei sa quanti anni è che non fanno un bando di concorso a Roma? Sì, vabbè, adesso non me ne frega ma questo, niente di queste cosa cose. Vuol dire? No, sono 50 anni e ci sono solo 1100 licenze. No, però ecco, io sto pagando 900 euro al mese per una licenza di Roma, è giusto questo? Sì, però scusami Alfredo, tu dove l'hai presa sta licenza? Io no, ce l'ho in affitto. Ce l'hai in affitto, diciamo, va bene. In affitto pagandola. Sì, pagando. Perché non ci sono licenze. Va bene, ma questo può essere un problema, d'accordo, non ci sono licenze, per questo costano tanto. Però giustamente questi tassisti, se viene uno da non so dove a fare un lavoro che non potrebbe fare in quella città, giustamente se cazzano, dice com'è possibile? Tu sei una macchina che dovrebbe lavorare a Firenze, dovrebbe lavorare a Rieti e vieni qui. In questo caso è chiaro che l'aggressione è una vergogna. E allora infatti io mica sto dicendo che loro non lo devono fare, lo facessero nelle sedi proprie, nei tribunali, dove non è che devono minacciare. Ma pure a te, minacciano anche te? Sì, ma i vaffanculo che ci hanno detto che manco si immagina, con tutto che c'ha una licenza, che cammino con una licenza di Roma. Va bene, cioè, io c'ho ragione, ci hanno ragione anche loro. Ma tu lavori anche per Uber? No, non lavoro per Uber. Non mi interessa, perché c'ho i miei clienti e via. Va bene, Maurizio, Firenze, vai. Maurizio, dai, vai. Ma tu hai visto il titolo di Libero.it? No, poi vedo. Maurizio, vai. Accusa, clandestini, banditi, devastano il traghetto. Pronto? Furia Cruciani, due punti, prende a sberle un ministro. Ma non è vero. Ma è vero? Non ho preso a sberle nessuno. Ma non è vero. Libero, accusa con la tua foto, tutto brutto, torvo, sporco. Aspetta, clandestini, banditi, devastano il traghetto. Furia Cruciani, due punti, prende a sberle un ministro. Ma no, non è vero. Dentro, ma vedere l'articolo. Ho criticato Minniti. Esatto, perché c'è scritto critica di Cruciani. Maurizio, prende vai a sberle un ministro. Io quando l'ho detto, ho detto, cazzo, ma ti faranno. Non sapevo. Maurizio, un attimo, dimmi. Che ci siamo? Sì, vai. Sì. Ascolta, volevo intervenire con Parenzo, visto che all'inizio della trasmissione ha, diciamo, difeso la Mussolini, perché non si dovrebbe vergognare, perché ho detto che la Mussolini va attaccata per il suo pensiero politico. Guarda, non se uno non lo condivide, naturalmente. Se, certo. Non per cosa che ha fatto il marito, il fratello, il cognato, la zia. Ma siccome se non era il marito della Mussolini, ma un semplice cittadino, aveva fatto quel puttanaio lì, questo era già dietro le sbarre e aveva buttato via la attenzione, chiave. Attenzione. Allora, questo non c'entra niente. Tu stai dicendo un'altra cosa, stai dicendo che in quella vicenda lì il marito della Mussolini, che credo abbia patteggiato per prostituzione minorile, ma non c'entra niente, perché la moglie è stato favorito dai giudici. Questo sono cazzi che dici tu, almeno io non lo so, non credo che sia stato favorito in questa vicenda. Io mi prendo la responsabilità di ciò che tu stai dicendo, che il marito della Mussolini, che ha patteggiato con i giudici per il reato di prostituzione minorile, se non mi sbaglio, adesso vado a controllare bene, ha patteggiato, è stato favorito per il fatto che è marito della Mussolini. A me non risulta, a me risulta il contrario, anzi, che comunque... come succede a Firenze, che tutto ciò che riguarda Matteo Renzi, Nardella e PD, dove abbiamo l'ex procuratore. Vabbè, ma questo cosa, scusa, mettiamo che sia così, ma cosa c'entra con il discorso che facciamo prima? E se siamo... Cioè, lei non può parlare, secondo te non ha diritto di andare a parlare in televisione perché il marito ha patteggiato una condanna per... Ma che parli di politica, se poi viene attaccata, che chieda scusa agli italiani, perché siccome gli italiani... Ma perché? Deve chiedere scusa per che cosa? Per quello che ha fatto il marito? Perché se fosse una politica onesta che prende i soldi dagli italiani con il suo stipendio, quando succede una cosa del genere si dimette. Allora la Boschi non ha colpa se ha fatto un Banca Etruria? Tu dici, siccome il marito ha fatto quello che ha fatto, lei si deve dimettere dal Parlamento. Mi pare il minimo. Ma non lo so, francamente. Ma che c'entra? Ma guardi che la responsabilità penale è personale. Cosa c'entra la moglie? Non fermo c'entra lì, assolutamente. Fermo lì, ma fermi, che fermo? Fermi. Ma fermo, lascia la pubblicità, amico mio. Allora sì. Te la metto in quel posto, se no. Ciao. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato. Tu gelato al cioccolato, pubblicità. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Cruciani, ieri mi sono laureato. Prima di entrare a discutere sono andato in bagno e ho pisciato. Non mi sono lavato le mani. Poi ho stretto vigorosamente la mano a tutta la commissione. Sono al top. Moglie mi fa: tesoro, ci si è otturato il cesso. Amore, amore, ma che ce ne fotte? Noi abbiamo il lavandino. Troni, spacciatori, malviventi, vergogna. E volevo vedere se sei risposato con Alessandra Mussolini, che c'hai una moglie che non gliene fregava niente del sesso se non andavi a mignotti. Ma un marito che va a casa e sente una moglie che dice così, ma se scopa pure la Filippina dei 70 anni. I said, are you gonna be my girl? Mamma mia, quanto siete cattivi, ragazzi. Oh. Quanto siete cattivi. C'è certa peggio gente, di noi, sì, siete, peggio di noi. Mi ha colpito molto quello della mano alla commissione. Sarebbe quasi da denunzia, secondo il tuo criterio, David. Cioè, un tizio che si laurea poco prima. Io invito tutti a fare così, però, ragazzi. Cioè, se è un grande invito. Poco prima di presentarvi davanti alla commissione di laurea, andate in bagno, fate la pipì, sgrullate, non vi lavate. Non vi lavate le mani. E stringete la mano al presidente della commissione, a tutti gli altri. Ma è una porcilaia vera. Per sfregio. Ma è una per sfregio perverso. Magari vi hanno fatto soffrire la commissione di laurea, ma magari siete, sei stato ma lì. Siete, ma scusami, però, ma in generale, ma tu veramente. Io sai che non ti do più la mano. Io da quando. Io adesso che so queste porcherie a te, non ti do più la mano. Io la mano, le mani me la lavo al 50% delle volte, non sempre. Ma lo so, 50, ma fai no, schifo, 50% infatti, delle volte. Quando ho tempo me le lavo. Quando non ho tempo non me le lavo, ragazzi. Ma mica è una roba normale, dai. No, è da criminali. Io sai che conoscevo purtroppo non posso fare il nome. Il padrone, l'amministratore delegato di una grande azienda di Rimini, il quale era talmente fissato su questa, un'importantissima azienda di Rimini. Sulla polizia? Ma malato di mente, ma proprio fissato, sai quello della mucchina? Per me, per esempio, le persone che si portano dietro la mucchina, io non la sopporto. Cioè, se una donna, se esco con una donna che si porta la mucchina dietro, ti giuro la mando a fare in culo. Cioè, una donna con la mucchina dietro, ma perché ti porti la mucchina dietro? Ma che c'è, che sei malato di mente? Quelli che tirano fuori la mucchina, ma com'è possibile? Cioè, ma perché c'hai la mucchina? Tra quelli che portano la mucchina e gli sporcaccioni come te, ma preferisco quelli che non portano la mucchina. Ma ragazzi, allora comunque. Racconta questo. Questo tizio qua calcolava il tempo che i dipendenti impiegavano nell'entrare, siccome c'aveva il bagno a portata di vista, diciamo, vedeva quanto ci mette quello ad andare in bagno a uscire. Se ci metteva troppo poco, significa che non era passato a lavarsi le mani. Non era passato dal lavandino, capito? Questo è il punto. E dunque lo inquadrava, lo metteva nel file. Sozzoni, a quello la mano non gliela do. Secondo me avrebbe voluto cacciarli questi qua, però poi non poteva, naturalmente. Ah, ma che c'è? Di martedì? Di che parla, secondo te, il programma di martedì? Non so, programma di martedì. Come di lavarsi Bersani, le mani? Cioè, come c'era lavarsi? Vabbè, come lavarsi anche le mani? Utile. Sì, certo. Importante, secondo te, più importante questo? Fa più ascolti questo o Bersani, secondo te, questo? Entrambi in questo caso. In questo caso entrambi. Sì, perché in pochi lavano le mani in modo adeguato. Ci sono infatti delle regole da seguire. Le mani vanno lavate prima e poi subito dopo aver espletato le funzioni fisiologiche. E poi per uccidere tutti i batteri patogeni bisogna lavarle per un minuto con sapone disinfettante, sfregandole in modo circolare e anche in mezzo alle dita. Vabbè, questo diciamo non è particolarmente, come dire, servizi inutili, ma che vuol dire per un minuto passandolo in mezzo alle dita? Ci vuole un minuto prima che lo sporco, perché uno spreca le immagini, le telecamere, cioè per dire bisogna lavarsi le mani per un minuto col sapone in mezzo alle dita. Ad esempio, in quello stesso servizio ti hanno insegnato che lo sporco si annida, devi tenere le unghie ben tagliate. Ma no, tu ad esempio hai le unghie. Ma che cosa? Se non me lo dici. Tu ad esempio sei talmente sporcaccione che hai le unghie tutte lunghe. No, assolutamente no. Si annida tanto di quello sporco. No, ma non lo sapevo, sai. Se non me lo dicevano i signori di partito, non lo sapevo. Io penso che il tuo livello di batteri che hai nel corpo è lo stesso che poi ti vanno nel cervello. Per quello fai le trasmissioni così, perché sei talmente pieno di batteri. E poi te la prendi con i rom, peraltro, che a confronto a te sono veramente puliti. Sono dei lord inglesi a confronto. Ma te lo dico io. A proposito, la signora Roma, dove è finita? Quella che dovrebbe andare a fare pulizia da napoletana, sì. Dal direttore. Chiuma ama farsi la doccia tutti i giorni, a volte anche due volte al giorno. Ma tutta questa pulizia andrà bene? D'inverno farsi la doccia un giorno sì, un giorno no, basta e avanza. D'estate anche una volta al giorno può essere necessario. La lavandosi troppo, schiuma toglie anche le protezioni naturali della pelle, fatte anche di batteri buoni, un po' il corrispettivo dei fermenti lattici nell'intestino. La indeboliamo, indeboliamo l'organo più grande del nostro corpo, che è la prima barriera con l'esterno, con gli agenti atmosferici, con i batteri, con i virus, quindi la rendiamo più vulnerabile. Ragazzi, anche qui nulla di nuovo. Questi occupano spazi televisivi per raccontarci che la pelle si indebolisce. Va bene, l'abbiamo sentito 150 volte. E comunque lasciamo perdere chi se ne frega di quello che fa di martedì. Io ad esempio che tutte vuoi. Le mattine, come ti ho detto, sbagli, più volte faccio la doccia. Sbagli, hai sentito, e lo sbaglio sbagli, che stai fa, sbagliando. Che stai è quello sbagliando. Di lavarmi anche i capelli tutti stai i giorni. Stai sbagliando, peraltro. Segui però, il consiglio di questi signori. Segui il consiglio di questi signori, stai sbagliando. Caprarica dice che si fa la doccia ogni giorno, shampoo incluso, signor vedi. Caprarica. Otto, signor vedi. Caprarica. Anch'io, vedi, infatti. Quindi si scopre, Caprarica, non bisogna fare la doccia tutti i giorni. Mi dispiace, ma non sono di questa corrente di pensiero. Ogni giorno shampoo incluso, anche perché sennò non si riescono a pettinare. Vabbè, ragazzi, andiamo a Davide Milano, vai. Davide Milano. Ciao Cruciani, ciao Parenzo. Dimmi. Saluti. Siamo per la vicenda Andos. Sono un testimone, nel senso che io vorrei dire che è verissimo in quanto iscritto. Cioè, tu sei socio iscritto Andos? Certo, pago 15 euro l'anno di tessera, anzi se volete ve la faccio mandare pure a voi. Ma no, meglio di no. Perché no? No, scusa, che me ne frega? A me non mi interessa, non me ne frega. No, non discriminare Parenzo, tu sei Parenzo, è veramente incredibile, è veramente mi mandi una tessera, se le posso chiedere se cioè, vuole Parenzo, fare. Odia i gay, diciamo. Ma no, no, ma che Parenzo, guarda che questa è la tessera dell'Arci, Arci gay, ma Arci. C'è, ma Arci ce l'ho la tessera dell'Arci, Arci gay non ce l'ho perché non è ma non è un ambiente che frequento, vuole farmi un regalo? Benissimo. Se mi vuole, ma mi ascolti a me, se mi vuole fare un regalo, magari mi può regalare una bella cassa di vini, le dico dove regalare. Oddio, mi vuole regalare qualcosa? Posso scegliere liberamente no, di non avere la tessera di un locale di omosessuali dove si fanno scambi di coppia? Posso? No, che coppia? Non lo so. Holly Moon, Holly, come si chiama? Holly Moon, Dark, no, room, Dark room, porcherie, Glory Hall che entrano nei buchi, poi trovi dall'altra parte bocche. Posso dire che se mi deve fare un regalo, preferisco avere, che so, una tessera di regalo alla Feltrinelli, alla Mondadori, in qualche altra libreria, una tessera da 80 euro. No, perché 80, 20? 90, 100 euro, quel che vuole. Posso comunque chiedere questo? Sì, vabbè, Davide, ti vuole regalare la tessera. Io l'accetto volentieri. L'accetto io volentieri. Non la voglio, se mi vuole fare un regalo, mi faccia quest'altro. Dimmi, Davide, dimmi. Poi paghi l'ingresso al locale, che comunque varia, 15, 20, 25, e quindi questa cosa che loro si prendano pure il rimborso pubblico, è una cazzata, nel senso io non mi associo alla lobby LGBT perché giustamente non vedo perché devono prendersi il finanziamento pubblico, è un'operazione di business e va gestita con business. Ha ragione se Davide, al 100%. Vadano a cagare. Io no, utilizzo ma i servizi e li pago. No, ma ha ragione Davide, lui paga la tessera, paga l'ingresso, paga le consumazioni quando consuma. Certo, scopa, perché immagino che tu scopi là dentro. Certo, no? Se vado per non prostituzione però, sono locali normali dove però si può far sesso. Sì, ho capito, non prostituzione è la tua esperienza, da quello che abbiamo visto dalle immagini delle Iene invece la prostituzione c'è. Non può so se sia diffusa, tu l'hai vista, hai notato qualcosa? No, io no, però magari ci stanno delle cabine, non lo so. Diciamo io no perché non l'ho mai provata, però ma comunque, si fa sesso diciamo, protetto se no scopa, si fa sesso protetto no Davide questo diciamo no. La verità a volte no però a volte no a volte se la gente se ne fotte. Allora quelli più seri regalano anche i condom che comunque farebbe parte della famosa operazione culturale. Ma dovrebbero averci là un cestino con tutti i condom questi Bravo. Signori qua dei club. Alcuni no. No, alcuni non e hai visto gente fare sesso, scopare dentro questi circoli senza preservativo, giusto? Alcuni lo fanno. Alcuni sì, lo sì, fanno. Ho pure visto. Non ho capito. Poi i massaggi, ci sei mandato a fare i massaggi? No, però so che li fanno. Vabbè, i massaggi, anche quello non è una cosa che non si può fare. Ma veramente la prostituzione, perché qualcuno ha parlato anche di prostituzione minorile. Ci sono ragazzini no, là dentro? Anche questo no, almeno questi io non ne ma ho tu dove che frequenti? Circo di Milano o di Roma? Milano, ma ci stanno parecchi locali, ci sono anche delle teste particolarmente interessanti. Glory Hall? Glory Hall l'hai fatto? Quelli all'estero. L'hai fatti Glory Hall, amico mio? Ma sì, ma l'ho fatti, si vedono, sono esperienze, ci stanno. C'è capito, un locale Parenzo, a sono esperienze, tu? No, cioè, aspetta, io c'è un locale a Parigi, famosissimo, dove ci stanno queste cose, però almeno non devi pagare la tessera. Cioè, non ho capito. Si chiama Depot Parigi, locale più famoso. Come si chiama? Come si chiama? Se vado a Parigi, Depot, vado al Louvre. Io vado al Louvre, vado alla Gare d'Orsay. Non vado in un posto dove sei al buio. Tiri fuori il tuo aggeggio, lo metti in un buco e dall'altra parte lo sai che trovi. Scusate, ditemi antico, bacchettone, radical chic. Io vado al Louvre, non vado a mettere questo coso in un buco dove dall'altra parte lo so chi c'è. Scusate, e non me ne frega nulla di essere controcorrente. In questo locale, mi fate innervosire, dimmi. No, però Davide locale, magari va sia al Louvre sia ai musei, certo, e poi mette l'uccello al buco del Gloriolo. Fate quello che volete, fate delle porcherie in sta trasmissione, me ne frega niente. L'elmetto da muratore piuttosto che la camicia da infermiere piuttosto che la tenuta poi, da pompiere, le puoi affittare al guardaroba. Questo non ho capito bene, cioè, per avere una specie di atmosfera, questo è il punto. Ma quale atmosfera? Ma che ha uno si messe dei... con le oggettine, no? Ma ha ragione Davide. Cioè, se non ho capito, ma qual è il problema? La libertà è la libertà. Cioè, la libertà anche di travestirsi, di mettere l'uccello dove ti pare. L'importante è che non ci siano i soldi dello Stato. Lui ha ragione, socio, strappa questa tessera, Davide. Ti hanno ingannato, prendono finanziamenti pubblici per fare pseudo attività culturali, strappa la testa. No, scherzo. Però non mi fanno più questo problema. Ma figure, pare che te mica le riconoscono dalla voce, amico mio, dai, su. Se strappo la tessera c'è un numero, quindi no. Tu vuoi continuare ad andare là per scopare, questo mi sembra evidente. Beh, chiaro, ma certo. Ma cosa c'è di bello, per esempio, nell'ammucchiata? Questo voglio vedere. Cioè, Parenzo, di a Parenzo che non lo capisce questa cosa qua. Nella dark room gay, in questi posti qui, tu che avrai... Qual è la cosa bella? Non c'è nulla di bello, però ci stanno dei posti dove, guarda, in Italia siamo indietro, ripeto. Ma tu la cosa più estrema che hai fatto, è stato? Ti sei fatto tirare qualcosa? Hai messo le catene? Che hai fatto? Ragazzi, no, ci sono le famose sling, che sono quelle sedie dove si piegano e poi ti picchiano, ti frustano. Beh, caro amico. Anzi, ti dico una cosa, a Berlino la famosa Fetish Week, dove tu vai e vai in questo locale, c'è di tutto, ci sono anche le puppies. Ma tu non hai capito, tu hai fatto, che cosa, ti sei seduto qualche volta, ti sei fatto legare, ti sei fatto picchiare? No, io no, però si fa. Però hai picchiato. Ma fate quello che volete, vestitevi da cani, fatevi picchiare. Ma io lo so. Scusa Davide, tu che hai fatto? Hai picchiato tu però? Cioè tu... Ma a me piace, io sono molto voyeur, quindi piace molto anche se voyeur. Davide voyeur. Io vado al cinema se voglio guardare, guardo un film, non vado in sti posti. Però ragazzi, ho capito che ormai ciao Davide. Cioè, a sentire trasmissione, arrivederci. A sentire questa trasmissione, sembrano normali tutte queste cose. Ma Davide voyeur, ma fallo essere voyeur. Il tuo crimine che i tuoi nipoti un domani ti rinfacceranno quando sarai su una sedia a rotelle con il catetere in fin di vita. Io ti sarò a fianco, ovviamente, a spingere la carrozzina e a staccarti il catetere, anche la macchina per respirare. Sarai lì, avrai questi nipotini adorati che verranno e diranno: nonno, ma mi racconti cosa facevi? Dici: nonno faceva giornalista, dirò io, che tu tanto non potrai neanche parlare perché sarai completamente disabile. E direi: sì, così sarà. Sì, ma dimmi, David, ma cosa faceva? Cosa faceva il nonno? Guarda, il nonno cosa faceva? Faceva un programma alla radio, Radio 24. Ah, sì, c'è ancora quella della Confindustria. Sì, certo, E che cosa faceva? Dico, guarda, vai a vedere su Google, metti Giuseppe su Google. Cosa resterà di te? Resteranno questi audio in cui tu incitavi a pisciare nella lavandina, a mettersi le maschere, a prendere questi piselli, a metterli nei buchi neri, a trovare dall'altra parte persone, uomini, oggetti, cani. Questo lascerai ai tuoi nipoti un domani. Questa roba qua, questo patrimonio immondo, te assicuro, immondo. Fermo lì. Ormai è tutto degradato. Allora, abbiamo con noi, caro Parenzo, il protagonista della polemica pazzesca con Alessandra Mussolini, Daniele Martinelli. Ciao Daniele, buonasera. Ciao Giuseppe, ciao a tutti voi. Allora, vuoi chiedere scusa alla Mussolini? Dovrebbe. No, per nulla. Non ritiri una sola parola di quelle che hai pronunciato. Assolutamente, anzi avrei voluto dirne di più. Cioè, cosa avresti voluto dirle? Spiegami. Perché purtroppo non ho avuto tempo di spiegare, semplicemente avrei voluto dire che quando in TV si parla di legittima difesa, si parla di argomenti che la gente sente sulla propria pelle, sì, purtroppo in politica ci vuole un po' di realismo. Mm. Il bagno di realismo è l'esempio che ho portato l'onorevole Mussolini quando blatera in televisione di voler allargare le maglie della legittima difesa, ben sapendo che non può farlo. Mm. Vabbè, questo però è un discorso politico. Cosa c'entra con la vicenda del marito? Scusa, nulla. C'entra nulla. Perché, c'entra perché il tema della discussione se devo difendere fammi sentire, fammi sentire. Consentire ai cittadini di poter sparare sempre e comunque, che è un abominio giuridico che non succederà ma mai. Ma questo cosa c'entra con la vicenda che ha coinvolto un familiare della Mussolini? Perché è capzioso quello fammi che sentire, lei ha fatto. Fammi perché sentire se prima. A Mussolini interessa che il cittadino ha diritto di difendersi sempre e comunque, di sparare se è il caso, senza essere perseguito in casa sua con estranei. A me può capitare, o a chiunque, di entrare in casa, trovare tua figlia magari minorenne che sta per essere abusata da uno molto più grande che non sai chi è, non hai mai visto, quindi uno che fa violenza in casa tua, se permetti, allora tu, preso dall'embolo, potresti avere la pistola, perché la legge tanto te lo consente, gli spari, lo ammazzi e guarda caso, purtroppo, poi viene fuori che magari è da uno che poteva essere giudicato dalla magistratura, e un caso così è stato quello del marito della Mussolini, che non è stato in flagrante, è stato condannato in base a intercettazioni per prostituzione minorile. Ma è capziosa questo suo esempio, è una stupidaggine. Uno che delle minorenni e del disagio giovanile per i cazzi suoi. Sì, ma che c'entra la Mussolini? Quindi io vorrei mettere alla prova ogni padre che ci sente, o ogni madre che sente una cosa così, cosa farebbe di fronte a uno della sua età di 50 anni che si tromba la figlia minorenne, se non gli spari. Io quindi la domanda era lasciami finire la domanda e gliela ripeto perché non mi ha risposto. Se suo marito fosse stato sparato dal papà di quella ragazza che si faceva di 16 anni, sarebbe stata contenta? Che esempio. Però Daniele non è un caso che bisogna parlare, non delle cazzate. No, ma Daniele, io capisco la provocazione. È la prima volta che qualcuno in una trasmissione ha parlato alla Mussolini di questa vicenda qua. Però il problema è un altro, che il marito della Mussolini non stava stuprando nessuno. Cioè è una storia diversa. Tu hai fatto l'esempio, se tu entri dentro casa, vedo mia figlia aggredita da uno di 50 anni. Non ho detto aggredita. Ho detto che ne approfitta. Aggredita. Allora, quando tu non ne approfittava perché erano consenzienti. Poi no, si ascolta. 16 anni per la legge italiana non hai capito ancora. In quel caso soprattutto se la paghi 100 euro. No, ma lo so benissimo, è stato condannato, ma infatti è stato condannato. Ma non è quello il punto, certo che non si può fare. C'è un motivo, se c'è una condanna c'è un motivo. Ho capito, quella voleva farlo, stava facendo la prostituta. È diverso dall'esempio. Ma lo so benissimo quello che prevede con i minorenni o con uno di 3 anni più grande di lei. Ma certo, 19 anni, ma non c'è, con uno di 50, non hai capito? Capito? Sto dicendo semplicemente che è un caso diverso da quello punto, di molestie. Giuseppe. Non c'entra niente la molestia in questo caso. Nulla. Non c'entra niente perché quella non è molestata. Io non ho parlato di molestia. Siete voi che parlate di molestia. Io dico parlo di abuso. Sì, ma quando tu ti fai una minorenne, tu abusi di un minore. Ma certo, non c'è dubbio su questo. Ma è questo il punto. Se tu abusi di un minore. Sì, ma quella faceva la prostituta. Lei ha usato un argomento stupido, polemico. È stupido, no. E soprattutto lei può attaccare l'onorevole Mussolini per la sua posizione sulla questione delle armi, ma non c'entra nulla la vicenda privata che ha coinvolto suo marito. Ecco perché lei messa non c'è in mezzo. Nessuna c'entra ipocrisia, perché tu vieni in televisione ad aizzare le piazze quando sai bene che c'è una legge che funziona che non puoi cambiare, perché io ieri sera gli ho detto, ripeto, che cosa c'entra col marito? Legge per consentire ai cittadini di sparare sempre e comunque, non lo fate perché è incostituzionale e loro lo sanno. Ma va bene, questo può essere un argomento. Daniele, questo può essere un argomento. Poi tu, però, sei andato oltre perché hai detto un'altra cosa. Ha detto: se uno arriva dentro casa e trovi uno di 50 anni che abusa di tua figlia o comunque che molesta tua figlia, cosa fai secondo la logica delle Mussolini? Tu dici: dovresti dire è giusto sparargli addosso. E hai fatto l'esempio del marito. Mussolini, se uno gli spara, fa bene secondo lei? Che è lì a sdenare questa roba qua, visto che è lì a giustificare questi qua che si difendono con le pistole. Ma perché si dovrebbe vergognare la Mussolini? È un messaggio abominevole. Tu hai detto si dovrebbe vergognare. Perché si dovrebbe vergognare? Non ha titolo per parlare di sicurezza perché il marito ha patteggiato per prostituzione minorile? Ma vergognare perché mi dà fastidio la falsità ideologica di questa gente, l'ipocrisia totale e la mancanza di responsabilità. Un parlamentare, se deve assumere la responsabilità di quello che dice, si assume la responsabilità ma anche delle colpe del marito, io ti attacco sul personale. Punto. Hai capito? Perché poi le leggi, gli effetti delle leggi ci toccano dentro noi, ci toccano i parenti e le leggi nefaste e le disgrazie ci toccano direttamente. Sì, ma allora, ho capito, voglio dire, secondo te non ha titolo, non ha concreta, ho proposto un caso concreto a Mussolini che non mi ha risposto. Poteva dirmi sì, mio marito doveva essere sparato dal papà di quella di cui stava abusando, oppure dire no, non doveva essere sparato. Cioè, ma capisce che questo argomento è delegittimante nei confronti dell'attività politica della Mussolini. Cioè la Mussolini va giudicata per quel che dice, per quel che fa, non no, perché però lui dice un'altra cosa. No, aspetta. Lui dice una stronzata, fammelo dire. E io non voglio stanare. Stanare. Lei ha detto se ha fatto un colpo basso, un colpo basso che non ha nulla a che vedere con la sua attività politica parente, e non c'è nulla di più non c'è nulla di più lontano da me dalla Mussolini. Guardi, no, non mi coglioni. Non c'è, no, sì, certo, prendo le distanze dalle fregnacce che dice. Non c'è più, no, prendo le distanze. Fai prima dammi del voi allora. Prendo le distanze, no, del lei è più che sufficiente. Prendo le distanze da quello che lei fa e dice. Può dare prendere distanza anche dando del tuo. No, non c'è nessuna confidenza, do del lei, sprezzante. Certo. Nessuna confidenza con chi usa argomenti bassi, stupidi, e lo dice uno che non ha mai fatto passare nulla alla Mussolini, che è più distante dalla Mussolini. Stupido? Le tirare in ballo una vicenda personale che non riguarda manco lei, ma riguarda il marito, per delegittimare una posizione politica, che a me non piace. Che viene abusata da uno grande, ma non dica fai? Stupida, ma Evi, ma cosa dice? Ma, cosa che, ma che esempi cioè, sono? Perché, aspetta, fermi, no, Martinelli, allora è un argomento stupido? Martinelli, scusa, molto. Il fatto che lei abbia tenuto, secondo te, il fatto che abbia tenuto in casa il marito significa qualcosa? Ma il fatto che non me ne sono cazzi fuori, non me ne frega niente. Io allora perché lo tira fuori? Io metto a confronto quello che fa e quello che dice, hai capito? Io voglio trovare, cioè, secondo la sua logica, secondo la logica del Mussolini, se coerente, cioè, secondo la sua, la Mussolini se n'è andata e mi ha insultato. Vabbè, ti credo. Invece la coerenza troppo di un politico poco l'ha sì insultata, troppo poco. Non ho capito. Secondo te, la coerenza doveva essere è giusto sparare a mio marito? Se la trovo. Volevo sapere se anziché essere sgamato dalle intercettazioni, quando si trombava la sedicenne, guarda caso disgraziatamente ancora entrava in camera il papà di quella ragazza. Ma è diverso, non era in camera, quella faceva la prostituta. Se fosse successo, come avrebbe reagito la Mussolini? Che ne avrebbe pensato? Vabbè, adesso Martinelli, dopo la pubblicità ci racconta quello che è successo dopo, perché pare che sia stato insultato, il post scazzo a proposito. Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità. Pubblicità. La Zanzara. Scusate, dove sta scritto che le donne vogliono sentir parlare solo di cose gentili? Io sono una donna e non me ne frega un cazzo. Siamo al top, Cruciani, siamo al top. Allora, Daniele Martinelli ha ingaggiato questa mattina, o non so quando era, ieri sera, forse una grande battaglia con Alessandra Mussolini. Per la prima volta in televisione qualcuno ha detto alla Mussolini che in sostanza non ha il diritto di parlare di alcune cose, perché di questo si tratta, in quanto il marito ha patteggiato una pena, credo un anno di reclusione, una multa di 1.800 euro per prostituzione minorile. Non si pente per niente di quello che ha detto Martinelli, anzi vorrebbe aggiungere qualcosa di più, non si capisce cosa però. Cioè la Mussolini, al di là della questione delle armi, eccetera, l'incoerenza, la coerenza o l'incoerenza della Mussolini, io ancora non riesco a capire, caro Daniele. Capisco fino in fondo la provocazione, perché sono, come dire, uno specialista in queste cose qua, perché poi le provocazioni, soprattutto quelle vere, non quelle artefatte, quelle finte. Beh, questa è una stupidaggine. Cioè, perché la Mussolini, secondo te, non ha diritto di parola solo perché il marito, cioè le colpe del marito ricadono anche sulla moglie? Questo voglio capire. La Mussolini ha diritto di dire quello che vuole, ma ha diritto anche io ho il diritto da cittadino di pretendere la sua coerenza e sapere quello che pensa. Ma la coerenza questo, in questo caso, dove sta? Non mi ha risposto, ma vorrei. Cioè, ma in quanto condannato il marito, dov'è la coerenza? Lei non ha subito nessuna condanna. Una deputata che va in televisione a aizzare le piazze e quindi a giustificare sulla sicurezza? Sì, questo è il punto. Allora? A far piagnucolare questi qui. Vabbè, questa è la tua interpretazione. Sparano, sì. Come a dire, avete ragione, non avete alternative. Ok. Non fronte a un fatto concreto, visto che se fosse capitato a te No, visto che hai rischiato, tuo marito ha rischiato una situazione così, perché tu dimmi un po', non è mica da tutti, no? Andare in casa privata di uno e farsi una minorenne, no? Quindi può capitare. Beh, non è la stessa cosa, perché queste erano consenzienti, ma non sto giustificando il marito della Mussolini. Cosa avresti pensato se gli avessero sparato? Saresti stata contenta o saresti stata invece infelice? Non me l'ha detto, chiedetelo lei. Posso, non dire, posso dire una cosa? Va bene sollevare questo discorso quando si parla. Scusami, non chi dice le cose. Scusami, Daniele, però va bene sollevare questo discorso quando si parla di prostituzione, di stupri, di violenza sulle donne, d'accordo. Certamente io credo che la Mussolini non ci si metta nemmeno in un discorso di questo tipo, non vada a dibattere di queste cose qua, credo, ma per una questione credo di opportunità, anche se ripeto, le colpe dei mariti non ricadono sulle mogli. Poi si può discutere del fatto che comunque essendo un politico in America, per esempio, se la moglie di un politico, diciamo la verità, in America si sarebbe dimessa dopo 2 secondi dal Parlamento, perché così funziona Parenzo, no? Funziona così, non c'è dubbio. Ma se prendiamo l'esempio americano, prendiamolo su tutto allora, prendiamolo anche sul fatto che il presidente deve fare gli esami, deve fornire la propria cartella sanitaria. Ma lasciamo perdere, però è vero. Facciamo esempi su tutto, se tuo marito patteggia una truffa negli Stati Uniti, quindi diventi come minimo presidente di una commissione parlamentare. Che è giusto o sbagliato, sto dicendo che negli Stati Uniti, se tuo marito patteggia una pena per prostituzione minorile, una condanna, credo che tu hai molto, come dire, hai molta strada in politica. Non lo so, perché anche lì è un paese chiaro. No, perché anche lì la responsabilità penale è personale, non è che si trasferiscono le colpe. Non hai futuro politico, Daniele, di padre in figlio. Che è successo dopo? No, non è successo niente, ci siamo salutati e è finita lì. Quella se n'è andata. Se n'è andata dalla trasmissione e basta, non mi ha risposto. Ti ha detto di tutto. Mi sarebbe piaciuto, sì, stronzo, infame. Gli insulti sono proprio la difesa di chi non ha argomenti. Capisci? No, ma scusami, ma se tu attacchi una persona sul piano personale. A farmi minacce di tutti i lei, tipi, no? Lei ha attaccato la Mussolini sul piano personale. Non hanno il coraggio di avere un'opinione e di avere le idee chiare. Io invece le idee chiare ce le ho, e se sbaglio lo ammetto. Io qui non ho sbagliato niente, perché guarda, se devo difendere la Mussolini sulla Raggi è stato santificato dal centrodestra e dal centrosinistra. Ma questo che c'entra? Scusa, non ho capito. C'entra, perché quando si tratta di parlare di una donna e offendi una donna e sto sessino del cazzo, mi sono rotto i coglioni. Una donna, se prende un ruolo di responsabilità, si assume onori e oneri, esattamente come un uomo. Se no va a fare il ricamo, non va a far politica. Cioè tu dici che se tuo marito commette un reato grave come questo, ti assumi l'onere di rispondere a qualcuno che ti ricorda questa roba qua? Se ne capita l'occasione, sì, ma io non l'avevo preventivato. A me è venuto così, perché ieri sera questa signora ha esordito dandomi dell'ignorante. Infatti io sono rimasto ignorante, perché non so ancora cosa ne pensa di sta roba qua. Io non ho ancora capito se il papà di questa ragazzina, di cui il marito ha abusato... Non ha abusato, è un'altra cosa. Vabbè, è un po' diverso, comunque, è una situazione minorile, tu abusi di un minore. Sì, ma è certo, vabbè. Perché il minore tu non lo puoi toccare. Ma non sto giustificando nessuno. Tu non usi la tua esperienza di vita per corrompere un minore. Hai capito? Sì, diciamo che il minore in questo caso si è fatto un po' corrompere, diciamo. Tu corrompi un minore. Se tu un minore non va con un grande se non gli dai soldi. Poi che tutti vadano in Thailandia e facciano finta di niente, va bene, perché qua li sgamano. Sì, però diciamo le cose fino in fondo. Non è giusto. Secondo te, prima di andare in televisione dovrebbe chiaramente dire che ne pensa di questa cosa qua. No, se siamo impegolati in una discussione di legittima difesa, purtroppo... Sì, però io non riesco a capire la legittima difesa con la prostituzione minorile. Non c'entra una mazza. Un caso limite potrebbe essere, no? La legittima difesa, la Mussolini e il centrodestra vorrebbero... Sì, ma non c'entra niente con la prostituzione minorile, dai, su. È una legge che non cambieranno mai, perché è una delle poche leggi che funziona, l'altro, per il giro. Quindi parliamo del nulla. Non credo. Ma a me sono concesso che la cambiassero, se potesse anche sparare deliberatamente a chiunque. Dunque, non vuoi chiedere scusa. Non vuoi chiedere scusa. Anche al ragazzino che ma ho capito, va bene. No. Daniele, non vuoi chiedere scusa. Non chiedo scusa, perché io non mi devo scusare di niente. Ciao, Daniele. Io con la Mussolini non ho niente, ma non mi devo scusare di niente. Ciao. Mi piace proprio. Ciao. Oh, intanto è stato condannato Seferovic, il rom che la Chieng aveva difeso. 4 anni di carcere, Senad Seferovic. Ti ricordi questa vicenda certo. La Chieng si era un po' battuta per far uscire questo tizio, questo signore, dal centro immigrazione di Modena. Le colpe che ricadono, eccetera. Vabbè, Francesco da Milano, dai, Francesco. Vai, Francesco. Tu. Sì, buonasera. Vai, dimmi. Niente, volevo interloquire con il dottor Parenzo, perché è sempre il solito parassita che va a convenienza Quando va bene, perché se vado io prostitute devono sputtanarmi, mandarmi la multa che lo deve vedere mia moglie. Quando si tratta della signora Mussolini non si può toccare. No, veramente non però... ha detto che non si può toccare, non hai capito un cazzo, scusami. Ha detto che è un fatto personale che... No, ma ho capito, mica ha detto che ha fatto bene. Ma mica ha detto che ha fatto bene ad andare a puttane a minorenni, sei scemo, sei. Però... è un fatto personale, invece se filmano a me devono rovinare la mia famiglia, perché mi devono mandare la multa a casa, che lo sanno le mie figlie, i miei nipoti, perché noi siamo sporcaccioni, invece quelli sono dei signoroni. Anche tu vai a puttane, vai a puttane tu. Un politico dovrebbe vergognare di rappresentare, anche come ha detto lei, che suo marito ancora sta con lei, non ha preso neanche le distanze da questo signore. Ma quelli sono cazzi suoi. Siamo sempre i cittadini. Ma tu vai a puttane? Tu vai a puttane, sì o no? Ma ogni tanto ci andavo, adesso mi hanno fatto passare la voglia, perché ti fanno una multa di 10.000 euro e non posso più andare. No, è che non ti tira più, questa è la realtà. Troppo poco. No, ho fatto di multa. Beh, ogni tanto mi tira, non sempre, forse ogni tanto, però il problema è quello che ho detto io del signor Parenzo, perché la povera ma gente non c'entra la niente. Rovinare. Poi quando sono i suoi cugini di partito e compagni di banchetto, fascista, non si possono attaccare. Il personale, il fatto personale, il dottor Parenzo, Donato Di Varese. Senta, amico mio, se lei vuole... Donato se, mente che Donato se, Di Varese fa... ma con lui veramente c'è da fare... Senta... che falso personaggio, che falsità. C'ha una falsa, più falso della carta velina. Ha finito? Guarda, Ha finito lo show? Ma lo show lo possiamo continuare. Senta, se lei ha intenzione di continuare ad andare a prostitute, lo può fare liberamente. È mio assoluto diritto sperare che la polizia di Stato e nonno, i vigili, la becchino, prendano il numero di targa, la multino e mandino a casa ai suoi parenti, cugini, fino al sesto grado. Questo dovrebbe tu essere fatto. Sei un coglione, Parenzo. Questo è la mia speranza, che le mandino a casa. Dice il signor, come si chiama questo? Come si chiama questo signore? Francesco. Il signor Francesco tal dei tali è andato a puttane. Questa è la dicitura. Col giorno in cui è andato, la foto della macchina, mandato ai suoi familiari fino al sesto grado. Fino al sesto grado. Capito? Personale, coglione, perché mi devono attaccare a me? Saluti tutti a casa. Saluti io posso andare a puttane. Ha ragione. Senza rompere in casa mia moglie. Sono io che sono andato a puttane, è un mio discorso personale. Se perché devono coinvolgere tutto la mia casa. Famiglia? A casa sei le devono falso, mandare sei. La multa. Quale falso? Un falso la sei. Multa un a casa falso. Le devono parassita e lei mandare una bella multa sei a casa. Un falso, parassita, multa a casa sempre, con dicitura. Falso, e anche guardi, sai cosa? Anche con la aspetta. Il potere ti fa paura, attacca la povera sì, gente. Molta, lupo, povera gente. Lupo non mangia lupo, eh? Ma lupo non problema? Mangia lupo. Ma lupo mangia idiota, cioè lei in questo lupo, caso. Sei un lupo non mangia sei. Lupo, ma lupo mangia idiota, cioè ma lei. Ma quale idiota tu rappresenti proprio la falsità. La falsità Donato Davarese. Non dovrebbe fare A, il leone dovrebbe fare A con te. Ma cosa hai dice? Capito? Ma lei è anche un disturbato mentale. Francesco, ma lei è un disturbato. Quante volte Francesco? Vai a puttane? Ecco, sentiamo. Ma quelli sono cazzi miei, mi hanno fatto passare la voglia, ti ho detto, perché l'ultima bene. Volta ho preso una multa di 500 euro. Bravo, così ci questa così è la verità. Così ci pensi due aspetta, volte la prossima aspetta. Volta. Vero, Francesco, bandiera di libertà di questa trasmissione. 500 euro hai beccato. Da chi? Ottimo. Dove? 500 quale... euro dai vigili, che tra bravi. Le altre cose... Tra le altre cose, quel sì. giorno non avevo ancora fatto un cazzo. Mi ero solo fermato che stavo aspettando un coglione sì, in quel posto. Aspettando, figurati. Ma dove era? Ma che problema la solita, è? La solita scusa puerile. Ma no, stavo chiedendo un'informazione del traffico. Ma miserabile. Ma stavo solo chiedendo un'informazione. Stavo solo chiedendo 500 euro, troppo poco. Pagare la multa. Foto a casa alla moglie, ai figli, fino al sesto grado. Sì. Perché quando si tratta della povera gente, la mandiamo. Facciamo le multe. Vai lì a sfruttare le donne. Le donne sfruttate, miserabile. Si dovrebbe vergognare. Che c'è questa situazione dovrebbero nascondersi. Ha ragione Francesco. Senti l'altro lì, sovranità, ha ragione Francesco. Quanto meno stare zitti. Invece Francesco. Vanno lì a pontificare. Che cosa? perché dopo quando succede a loro la disgrazia gli rode il culo, eh? Sì. Francesco, come hai fatto a giustificare quella multa a casa quando ti è arrivata? Fammi sapere, fammi capire. No, come l'ha pagata, l'ha pagata. Saranno cazzi miei. Ah, l'hai pagata lì subito, coniglio, che basta non sei altro. L'hai pagata subito, coniglio. Coniglio che non sei altro, l'hai pagata subito, mamma mia, mamma mia. Pago di più e non risulta il mio nome. Questo è cosa hai detto? Italiano. E come hai giustificato quell'uscita di 500 euro a tua moglie? Giustifico. Come l'hai giustificato? Ma giustificato come cazzo sono? Era in doppia fila la macchina, ma in doppia fila. Giustifichi? Puttaniere. Come giustifichi la tua faccia di merda che ti presento ogni giorno così falso davanti al pubblico al che ti ascolta? Scusami, Francesco. Francesco, ma tua moglie no? Domani mattina quando ti guardo allo specchio non ti facciamo un facciamo un attimo il punto, 30 secondi. Bene. Facciamo 30 secondi di punto. Sì, sta chiamando un signore che ha chiamato un signore che si chiama Francesco, sì. Il quale rivendica di andare a puttane. No, si rivendica, arrabbia, ha detto che va a puttana sì, ogni tanto. E si arrabbia se gli arriva la multa. Ma dopodiché, certo, ha ragione. Il falso schifoso sono io. Ma il mondo non è che sta un po' girando al contrario. Ma ha ragione lui. Lui protesta. C'è un miserabile. Ma perché un miserabile secondo te? Tradisce la moglie e quello chi se ne frega. Tradisce con una prostituta un sfruttata, paga 500 euro di multa e rompe personale. Le scatole a me. Ma io se vado a puttana è un fatto personale, punisci me, perché devi mandare la multa? Tu coglione che giustifica che devono mandare la multa a casa te la mandiamo. Alle mogli. Con quelle la foto. Sono fatti personali con degli la foto. Uomini che li commettono quelle con tosserie. La foto e che mettiamo pure io metterei moglie. Anche coglione. Il cartello coglione. Con la tua faccia all'ingresso della città dove abiti. Sì. La tua basta, faccia. Cosa c'è tornato da Varese? Il leone, ma chi c'entra? Ma io dico una cosa, Francesco, tua moglie l'ha saputa questa cosa o no? Francesco, ma l'avrà saputo, mica in tutto si sa. Ricordati che tutto si sa, ha fatto finta di non capire, l'ha saputo bene. Vedrai che stasera quando torni a casa i suoi amici la chiamano e gli dicono: sai che tuo marito alla radio ha rivendicato il diritto di andare a prostitute? E speriamo che questo, si faccia trovare sulla porta con un bastone nodoso, così la cena la pigli sui denti a suon di bastonate stasera. Domani mattino tu quando ti guardi allo specchio devi dire: ma lo sai che quel signore, quel coglione ieri forse aveva ragione, perché quello è un posto personale. Questo come sulla... quello della Mussolini! Hai capito, coglione falso? Ma se devi dire domani ma allo specchio ma quando ti guardi allo specchio, quello devi dire! Non della mia moglie, non ti preoccupare di mia moglie! Preoccupati della Francesco, tua faccia quando ti guarda allo specchio! Tanto anche quella si divertirà. Se sei degno di guardarti non ho capito, io non ho capito una cosa. Francesco, fermi tutti, fermi. Fermo lì. Francesco, io voglio capire una cosa. Allora, tu ogni tanto vai a prostitute, giusto? Tua moglie non lo sa, giusto? Non lo sa, assolutamente. Però poi l'ha saputo a un certo punto quando è arrivata sta multa. Ma no, hai intuito una mezza cosa. Ma ci vogliamo fare una chiacchieratina con sta moglie? Che chiamiamola dici? A casa, no, dai. Assolutamente no, ma ti ma prego, sì, ma chiamiamola, ma quali cazzi tuoi? Adesso la chiamiamo a casa. Adesso la chiamiamo a casa e vediamo che la chiamiamo a casa adesso. No, non ti preoccupare, la chiamiamo a casa così vediamo, dai. Ma facciamo una bella chiacchierata. A casa che guarda, te ti deve chiamare, non so chi ti deve chiamare. Comunque Francesco, io ti abbraccio fortissimo perché questa multa qua vorrei fartela togliere. L'hai già pagata questa multa da 500? Purtroppo l'ho pagata, è successo, ti ripeto, 2-3 anni. Ah, ragazzi, allora io ti dico una cosa. Tutti sono liberali, liberisti. E la Moratti, quando ha fatto la Moratti quella legge delle prostitute. Aspetta, allora fa. Francesco, adesso pare che di anni fa, sì, allora fermo lì, calmati lì. Allora ragazzi, Francesco ha vissuto un caso drammatico, come avete sentito qui. Drammatico. Allora io vi dico una cosa. Drammatico l'ha vissuto la povera prostituta che è stata costretta ad andare con lui. No, che prostituta era, Francesco, quella che l'ha multa. Questo è un fatto personale, quelle dei poveri coglioni che si suicidano, che gli hanno mandato Francesco, le multe, qualcuno ragazzi, mandateci le multe, faremo una battaglia, mandateci tutte le multe che prendete. Grande battaglia per la libertà, libertari, liberisti libertà, e radicali. Sì ragazzi, è questa la verità. Francesco ed altri dovrebbero mandarci le multe alla zanzaretta di 24.it oppure non puoi vivere più perché questi qua, io l'altro giorno ero che correvo che fai? Volevi andare a mezzo dei campi? Volevi andare allora, a puttane? Giustamente appartato, c'era uno che è andato a prostitute, sono arrivati i vigili, non stava facendo un cazzo, perché? devono rompere i coglioni a chi va a puttare. Ha ragione, Francesco, ha ragione. Francesco, ha ragione, ragazzi. Ha ragione, vieni anche tu. Vieni anche tu in mezzo a noi. Dobbiamo fare la marcia dei puttanieri. Come Francesco. Facciamola presto, Carmine. Carmine, dove sei? Perché la mia famiglia la devono devastare. Se io sono un porco. Carmine, dove sei? Sei un porco, sì, beh. Mia moglie che deve rompere il cazzo a mia moglie. Se io sono un porco, è un mio fatto personale. È un porco. Basta. È un porco, dai. Sono certa... un porco, ma sono io un porco. Perché deve cagare ma il no, cazzo a mia moglie? Ma ha ragione, ha ragione. Carmine, dove sei? Carmine! Signora, basta, dai, su. Dopo non prendiamocela con Donato. Ma che c'entra Donato Valerio? Carmine, ma dove sei? Il personaggio che c'è al fianco non se ne può più. Rappresenta la falsità in persona. È incredibile come in questa radio la mattina e al pomeriggio si citano personaggi fatto, come così, Carmine, dai, dove sei? Fermi tutti, Carmine, dove sei? Siamo al top, ragazzi, siamo al top. La Zanzara. Ritorno alla Zanzara, caro David, Alan Friedman con molto noi. Bene, buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera. Come stai, caro Alan? Molto bene, grazie. Voi? Allora, Alan Friedman, beh, combattiamo come sempre su tanti ogni fronti. Ogni giorno, ogni giorno. Parenzo, non essere così. Oh. Dico, combattiamo ogni giorno. Sei contento che c'è Alan Friedman invece molto, di qualche ascoltatore felice. Che parla sì, delle sue esperienze perché personali? Perché finalmente alziamo un po' il livello. Lui ha scritto questo bel libro che io ho letto tutto. Questo non è la, questa non è l'America. Tu leggi anche libri? Sì, ogni tanto sì, leggo. Cioè, li leggi hai per letto tutto? Insomma, tutto no, il libro. No, non credo. Non ci questa crede, non è l'America. Non ci crede certo, nemmeno Alan. Sì, perché poi letto, ho un progettino che non posso annunciare. Ma insomma, hai letto questa tutto non è, il libro? Tutto. Tutto il libro di Alan, tutto. Beh, non è un, non ci crede nemmeno lui. Ho perché... capito, ma non è, non no, è ci lui. Credo, ci credo. Sì. Allora, questa comunque, non è cosa l'America bella... ed è di... Aspetta, l'editore, sì, ricordiamo l'editore, è sempre importante. Newton Compton. Newton Compton. Allora, caro Alan, io voglio sapere da te una... No, ma la cosa bella è come è scritto il libro, però. In che senso? Cioè, che sembra un film. Praticamente, quando lui va a trovare Trump, ad esempio, sì, non sì, è che dice semplicemente, sì, mi sono recato sull'aereo. Ma è bella l'immagine che ti dà, che ti sembra di essere lì, capito? Tutte le macchine fuori, le cose. Cioè, è scritto come un film, come un giallo, come un grande plot, è divertente. Beh, Alan, non è un diciamo che normale. Parenzo è specializzato nel fare promozione ogni ma tanto. No, ma dipende, cose, se una cosa mi fa schifo dico che mi fa schifo, questo mi è piaciuto. Allora, dico, caro Alan, la storia di Salvini, eccomi, che incontra sì, Trump, andiamo ecco, un po' per... questo per è importante. È vera o non è vera? Una puttanata? Hai scoperto qualcosa in più su questa famosa foto di Salvini bravo, con il signor Trump? Bravo. Allora, a patto che prima di lasciarci posso dire qualcosa di America anche. Ma sì, puoi dire quello subito, che ti pare, puoi dire quello che ti pare. Rispondo subito. Tu vuoi sapere cosa ha detto Donald Trump di Salvini? Sì, esatto. Ma ero a bordo del suo 757, eravamo parcheggiati nella zona cargo dell'aeroporto di Houston in Texas e sì, dopo Houston, aver parlato della Merkel, lui ha sparlato l'aereo, sì, ha detto che la Merkel era terribile, ha augurato la disintegrazione dell'Unione Europea, le cose normali. Sì, però, normale, normale. Dopo quello, alla sì, fine ho fatto due domande, ho chiesto di Salvini e ho chiesto di Berlusconi perché sì, pensavo che era chiaro, interessante. Per gli italiani, quindi ho detto: senta, c'è un politico in italiano che si chiama Salvini. Ho detto: chi? Ho detto: Salvini. Ho detto: mai sentito. Ho detto: sì, ma è un politico italiano, ha un partito che si chiama la Lega. Ho detto: che? Ho detto: Lega, Lega. Ho detto, no, no, non mi risulta. Ho detto: no, ma guarda, lui ha detto che ha pubblicato un foto, un selfie sì, di lei, sì, Trump. E lui e ha detto che vi siete incontrati. Sì. E Trump mi ha guardato un po' perplesso e ha detto: guarda, Alan, io incontro migliaia di persone, faccio migliaia di selfie. Non ricordo questo Salvini. E io ho detto, ma lui ha detto che tu hai augurato, che lei ha augurato a lui che speravi che diventassi il primo ministro d'Italia. Così ha detto Salvini, ho riportato a Trump. E lui mi ha detto, beh, forse ero un aspirante per qualcosa e ho detto in bocca al lupo, ma di questo Salvini... purtroppo mi dispiace, non ricordo nulla. Non ricordo, non nulla, ricordo nulla. Non ricordo nulla di Salvini. E invece Berlusconi? Di Berlusconi ho chiesto, ma voi due avete qualcosa in comune? Stavo parlando del sì, profilo sì, certo, psichiatrico, sì, narcisismo. No, parlavo invece di siete entrambi miliardari, sì, entrambi sì, leader politici. Cosa avete in comune? Ho detto, ma Berlusconi io non l'ho mai conosciuto, so chi è, ma diciamo, beh, siamo due tizi che si sono... siamo prestati alla politica, due tizi ricchi. Sì, basta, solo questo. Ecco, però tu ti sei spiegato perché Berlusconi ha sempre avuto un atteggiamento... Tu hai scritto anche un libro su Berlusconi, un film, un documentario, un sacco di cose. Perché Berlusconi in fondo non sopporta Trump? Cioè, c'è sempre... in realtà dovrebbero essere persone molto vicine. Invece, tra i due, c'è qualcosa che è successo. C'è credo che possiamo dire così. Di tutte le cose che si diceva e si vedeva di Berlusconi in tutti quei anni, le cose più sopra le righe, diciamo così, Berlusconi è una specie di timido gentiluomo elegante paragonato con Donald Trump. C'è una bella differenza. Donald Trump è sguaiato. È full metal jacket. Donald Trump è proprio più debordante di Berlusconi. Berlusconi è un nano paragonato con Trump. Cioè, paragonato... Beh, poi non è razzista Berlusconi, soprattutto. Di eccessi di gaffe, in termini di eccessi di entusiasmo, in termini di quanto strabordante. Tu Trump è razzista o no alla fine? Perché Berlusconi sicuramente non lo è, anzi. No, dico Donald Trump. È razzista secondo lei, secondo te o no? Quindi l'abbiamo lasciato indietro Berlusconi. Allora, no, un paragone tra Trump e Berlusconi. Berlusconi non Sì, ma non volevo fare tutto il visto su Berlusconi. Quello è l'ultimo libro, è il nuovo... No, però scusa, Alan, stiamo parlando di Trump adesso. Parenzo, infatti, non ce ne frega niente di Berlusconi. Cioè, la domanda è questa: tu consideri Trump un razzista? Allora, io direi che Trump, personalmente, come scrive nel libro, non è lui un razzista. Però lui è uno che, con l'aiuto di Steve Bannon, il suo uomo braccio destro dell'ultraconservatore, anche lui razzista, lui ha sfruttato il razzismo, ha incitato il razzismo durante la campagna elettorale. Sì. Si è messo con i poveri bianchi, quelli che... Ma tu lo consideri un pericolo come tante persone, come alcune persone da me? Io non lo considero affatto un pericolo. Tu lo consideri un pericolo per l'America? Cioè, l'America andrà incontro a un periodo di decadenza, di tragedia pazzesca, oppure no? Se abbia la pazienza, non hai mai tempo, Cruciani, a guardare l'ultimo capitolo del libro, vedrai anche... Sì, quello lo leggerò quando... prevedo... Dimmelo tu, riassumi. La mia previsione è che Donald Trump, in questo momento, è un elemento sconosciuto per il mondo e difficile a prevedere. Quello che posso dire è che se lui riesce a fare la metà delle cose che vuol fare sul fronte domestico, l'America... la società americana già lacerata cambierà in modo profondo e non per bene. A livello internazionale, la questione chiave sarà se gli elementi impulsivi della personalità di Trump, perché quando parlavo con Trump, lui non riusciva a concentrarsi, a focalizzarsi su un singolo argomento per più di uno o due minuti. Addirittura. Cioè non era un uomo... E sembrava un miliardario che voleva parlare bene, essere per bene, ma alla fine era un palazzinario dei sobborghi di New York. Secondo te è uno che non è in grado di gestire un dossier, reagisce per impulso? Ma è una questione di Donald Trump. Se mi fai una domanda seria, ti rispondo. Dimmi. Serio. È questo: che lui è impulsivo, che lui ha delle idee che sono a dire poco informato, cioè non c'è stato un attentato a Stoccolma in Svezia per il discorso, ma lui l'ha detto. Non è che la criminalità in America è salita 70%, ma lui l'ha detto. Quindi lui dice, lui spara grossa, ma gli adulti del suo governo, il nuovo consigliere per la sicurezza, il generale, l'altro generale al Pentagono, e il grande uomo della Big Oil, ex-Tillerson del Dipartimento di Stato, dovrebbero essere in teoria quegli adulti che frenano le tendenze più impulsive di Donald Trump. Ma loro non hanno accesso al suo account Twitter, numero uno. Numero due, accanto a Trump c'è sempre Steve Bannon. Steve Bannon è il vero presidente, il vero Gianni Letta di Trump. Beh, questo è forte. Steve Bannon, per chi non lo sapesse, è un consigliere accusato di essere un parafascista. Che vogliono capire cosa vuol dire Trump? Devono capire Steve Bannon. Lui amato dalla Ku Klux Klan. Dal Ku Klux Klan, amato dal Ku Klux Klan. Sì, amato dal Ku Klux Klan. Senti un attimo, i bianchi lo amano. Quindi ci sono delle rischi. Tu pensi che può cadere prima? Tu pensi che possa cadere prima Trump? Oppure pensi che sia? Guarda, non lo so. Io credo che i rosiconi e i democratici adesso parleranno di impeachment ogni due minuti. Sì, invece? Ed è anche vero che Trump si sta comportando in modo, cioè, curioso, per dire poco. Sì. Ma io credo che i repubblicani non possono permettersi, in un congresso in cui vogliono fare tante cose, tagliare le tasse, abolire Obama, di far cadere Trump prima del voto del 2018, quando il congresso di nuovo è... Va bene, devo chiudere. Ciao Alan, a presto. Ciao. Grazie. Adesso la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Che cazzo gli rovini la vita alla moglie, coglione! Ma Donato di Varese non basta con te, ci vuole il leone con te! Se io sono un porco, che cazzo c'entra mia moglie, che deve rompere il cazzo a mia moglie? Se io sono un porco, è un mio fatto personale, basta! C'era uno che è andato a prostitute, sono arrivati i vigili, non stava facendo un cazzo, perché devono rompere i coglioni e chi va a puttana, io ancora non l'ho capito. Le bombe! Solo per farci sapere che noi siamo qua! Oh, a proposito di Trump, Parenzo, mi fa ridere questo qui che abbaia, numero uno assoluto. Cioè, mi fa ridere l'idea che qui c'è gente che va a prostitute, che, come dire, glorifica queste stanze dove si mette l'organo sessuale maschile dentro dei buchi. Che problema e c'è? Che invece nel corso della giornata si difetta di economia, di Stiglitz, eccetera, e invece la sera ci sono questi persone. Ma ti pare uno che abbaia? Ma dai, è stupendo, è meraviglioso. Ma si può passare da Stiglitz? Ma chi se ne frega? Stiglitz, ma io, Stiglitz te ne occupi tu, a me non me ne frega un cazzo di Stiglitz. Uno che abbaia. Che pisciata, appunto, ma ti rendi conto? È stupendo, sempre però, regista questo. Però Gioia, scusami amico mio, c'è una cosa molto semplice, la conferenza episcopale italiana, adesso devo dire una cosa su Trump che la dico dopo, la conferenza episcopale italiana rompe i coglioni perché la regione Lazio, se non sbaglio, ha assunto dei medici non obiettori di coscienza, dei ginecologi, immagino, non obiettori di coscienza. Ora, purtroppo si deve arrivare a questi estremi. Non è chiaramente una cosa bella dire tu sei obiettore o non obiettore, dunque scegliere tra un medico e l'altro a seconda dell'obiezione di coscienza sull'aborto. Però, siccome spesso si arriva a trovare in alcuni ospedali delle persone che non ti fanno abortire e devi passare da ospedale a ospedale prima di trovare qualcuno che ti fa abortire, che ripeto è un diritto, uno è costretto a passare ai rimedi estremi. Cioè al fatto di, se devo scegliere tra un medico, lo scelgo come obiettore e non tra quelli che si rifiutano di praticare l'aborto. Mi dispiace, ma è così. E comunque la conferenza episcopale italiana non c'entra un cazzo con queste decisioni. Dovrebbe fare silenzio, perché sono cose che riguardano lo Stato italiano, in questo caso una regione, e non si devono impicciare dei fatti e delle scelte di una regione. Chiaro? Mi piace un mondo così? A me fa cagare un mondo così. Appunto. Un mondo così fa cagare. A te farà cagare un mondo così. Purtroppo l'Italia le leggi italiane prevalgono su quelle del Vaticano. Dunque la conferenza episcopale italiana non ci deve rompere i coglioni. Questo è il punto. Ale. C'è un'altra cosa. Sta passando i suoi guai uno dei, come dire, uno dei grandi sostenitori di Trump, amico mio. È un tizio particolare che qualcuno potrebbe accostare anche al sottoscritto. Io non ho mai sostenuto quello che adesso vi farò sentire, naturalmente. Tu però hai sostenuto Trump, cioè hai sostenuto. Sì, questo qua noi, è uno omosessuale. Si è fatto i capelli, praticamente si è colorato i capelli come Trump. Grande libertario, showman, eccetera, eccetera. Il quale però ha detto è scivolato su una cosa clamorosa. È uno di origine greca, molto conosciuto in America, il quale ha detto che è giustificato andare con i ragazzini di 14 anni. Cioè ha praticamente giustificato la pedofilia. È così, certo. Grande sostenitore di quel tizio, innanzitutto grande amico di quel tizio, il consigliere di Bannon, consigliere di Trump. out trying pedophiles? No, trying to go on this witch. You were witch, the one who was anti-pedophile earlier. I told you it wasn't the pedophilia. That's what you said. 14 is pedophilia, buddy. No, when you were 25, when you were 25, when you were 30, no. You will have seen girls about 15 you thought were hot. No, I thought they were little kids. No, you didn't. I thought... Wasn't pedophilia, non so se hai sentito. Non era, sì. Non è pedofilia. Allora, Giovanni dalla provincia di Ancona, vai Giovanni. Eccomi qua, buonasera. Dimmi. Vorrei parlare un momento con Parenzo, oltre che con lei. È qui Parenzo, è qui, dimmi, dai, forza. Sono qui, caro. Molto, molto velocemente. Prima Parenzo si è accapigliato con quel poveraccio che era andato a puttane. No, perché poveraccio, scusa? No, accapigliato, no, non mi sporco io, figuriamoci. Tanti anni fa... Sì, ma ascoltaci prima, non è un poveraccio quello, non è un poveraccio quello là. Beh, un po' sì. Ma assolutamente non è un poveraccio. Moralmente. Chiamiamolo così. Un miserabile, un miserabile. Facciamo prima. Quel miserabile, dai. Tanti anni fa, in una zona costiera tra Ancona e Sinigallia, c'era un nuvolo di puttane, travestiti e cose, e c'era della gente che ovviamente ci andava. Un bel giorno il sindaco di Montalcino ha fatto una qualche ordinanza, qualche cosa. Vabbè, allora? Ma che stai a fare? Oh. Scusate. Vabbè, poi c'ha la tosse, cioè, poveretto, la tosse. Ma che chiami con la tosse? Chiami ma con che la... deve morire? Col no? Cadarro, un po' di tosse, cioè. Uno chiama e c'è il cadarro. Vabbè, poveretto, no, che no, deve ma è passato, perché sono un fumatore accanito. Allora, comunque, non vabbè, si dai. Preoccupi, va benissimo. Alcune tosse. Persone hanno subito il sequestro della macchina, la foto, multe a casa. Sì, è il mondo che piace a Parenzo, è il mondo che piace a Parenzo. Il tutto è arrivato alle orecchie di qualche moglie e sono successi dei casini inenarrabili. Ma Parenzo è contento. Parenzo è contento. No, io dico semplicemente a me non interessa. Parenzo, ascolti, no, ma scusi avvocato, a me non interessa il tradimento, poi, non entro nel merito, questo, a me ne frega niente. A me interessa colpire il mercato delle carni, cioè delle donne sfruttate. Erano dei poveretti. Veramente i poveretti Parenzo facevano pena. No, ma io questo lo capisco. Quello che io voglio colpire è il mercato delle donne. Cantroni. Questo voglio colpire. Non lo capisco. E tutto ciò che non lo capisco. Dai, vabbè. Sono persone il più delle volte problematiche ancora. Con dei casini in famiglia che sono stati. Ma non è detto. Ma chi te l'ha detto? Amplificati. Ma non è vero. Chi va a puttane magari è una persona tranquilla. Ma che dice? Ma avete un'idea di chi va a puttane? Come se fossero delle persone miserabili, visti, come dei disgraziati, come dei impotenti, erano... schifosi, luridi. C'è gente che va a puttane. Gente normalissima. Per carità. Però quelli che ha conosciuto lei sono così, evidentemente. Aridaio con sta tosse. Un poveretto, ma ho capito, uno non è che chiama con la tosse, ma che perché deve farle morire? Perché andare a prostitute non è certo reato. Che stai prendendo quella tosse? Vabbè, abbiamo capito il caso, Giovanni, abbiamo capito il caso. Niente, non c'è sente. Poverino, le assicuro. Adesso c'ha pure dei cani bastonati. C'ha pure il cerume nelle orecchie. Glielo assicuro, Cusani. Sì, vabbè, Giovanni. Glielo assicuro. Allora, due cose. Primo, lo sciroppo per la gola. È fondamentale, certo. Quello mi sembra fondamentale. Secondo, miele, anche un po' di cerume nell'orecchio, perché ogni tanto, secondo me, succede anche al sottoscritto. E un po' ma di cerume. Mi lavo io, sono la differenza di lei, Cusani. Come? Bravo, scusi? Bravo. Io mi lavo. Sì, no, ma guarda che non bisogna lavarsi nelle orecchie, attenzione. No, le orecchie non bisogna lavarle, grande errore questo qua. Talvolta sì. No, mai usare cosa? Mai usare quell'affaretto dentro perché no, si rischia di... No, però si mai, sente, mai lavare le orecchie dentro, bisogna lasciare le orecchie zozze. Si lavano da sole, si autolavano, è vero, me lo dicono, questo ragazzi è vero. Non si può rinunciare ad ascoltarvi. Ciao Giovanni, è fantastico. Ciao. Ritorna il peggio di Radio Calabria, ex Radio Padania, via! Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania, bella e libera, guarda Trump. Servi di Roma fuori, vai! Che nel traghetto della Tirrenia verso Arbatax, Sardegna, a casa mia, avete sentito che questi marocchini hanno fatto un gran casino sulla nave? Perché non li buttano tutti a mare? Buttare a mare i marocchini, ecco, che poi non erano marocchini, erano algerini, comunque andiamo avanti. Non permettere al tiranno di accecarti. Riguardo gli extraterrestri, devi sapere, Semi, che la nostra Sardegna è piena di avvistamenti. Il collega di mio fratello fa addirittura delle conferenze e parla adesso esclusivamente del ritorno di nostro Signore Gesù Cristo. Questa è la stessa, che vuole buttare i marocchini in mare, pensa che ci sono gli avvistamenti di extraterrestri, sì, a livello standard, in Sardegna. E ragazzi, che materiale umano, però qualche volta c'è un materiale umano eccezionale, sì, disarmante, no, ma che disarmante. Poi dice analfabetismo di ritorno, che ma dai, su. Beh, ho visto delle testimonianze di donne che sono state rapite, diciamo, sì, così, e poi le hanno usate per fare degli esperimenti, sì, certo, certo. E poi sono venute fuori, e poi hanno votato Salvini, degli esperimenti dopo. Sono venuti fuori anche dei mostriciattoli, sì, un sacco di roba, sì, sì, infatti. Donne rapite dagli alieni che poi votano sovranità lì, Salvini. Altra cosa, per la storia dei finocchi lì, delle lesbiche, che adesso veramente ha rotto i coglioni. Ma non ti ricordi, Marrazzo, che noi culatoni e travestiti depravati li abbiamo sempre avuti al governo, non cambia niente, Sammy, è solo una continuazione. Il potere falso che ci spreme sfonda il muro di onnipotenza che ci ha reso schiavi. Non sopravvalutare l'italiano, che è un ottusangolo, cioè proprio il cervello è ottuso. Guarda lo scandalo dei locali gay, scambisti, gli andati soldi. Hai visto gente scendere in piazza? Ma che? Senza dubbi neri, pensamenti. E poi Parenzo, Mauro da Mantova, ospite di Varin, praticamente fisso, diremmo, no? Da Varin. Se la prende ovviamente con chi? Con te. Cioè lui passa la giornata ad attaccare, sì, te con i messaggi, eccetera. Ed è passato da codesta trasmissione, sì, a, vabbè, insomma, diciamo che non ha fatto un salto di qualità, diciamo la verità. Non ha fatto l'upgrade. No, non ha fatto l'upgrade. Comunque, andiamo. Senza dubbi, sono Mauro da Mantova. Mi sono tappato la figurina di merda che ha fatto il Procetto col cassetto dalla Le Pen di Farenzo. Ha fatto la figuraccia. Senza dubbi neri, pensamenti. Bada. Sto Procetto col cassetto. Grazie, grazie. No, no, no, ma non ci interessa, non ci interessano le querele. Poi lo sai che la prima volta che li girano, te ne fanno tante di querele, perché vivono di questo in casa, Parenzo. Messo a tacere anche da Varin. Fai vedere quanto è bella la tua terra. Vabbè ragazzi, andiamo, dove andiamo? Andiamo a Marco, provincia di Alessandria. Vai, dai, vai. Smonta, vai, il tendone del circo, no, che vai, ci trasferiamo. Siamo alla rush finale, ancora sono caldo, caldissimo. Smonta il tendone, Marco, vai, allora, smonta il tendone. Buonasera ragazzi, buonasera. Dimmi, buonasera, dimmi. Buonasera. Vai. Stiamo smontando, però, il tendone. Ma che cazzo, tutte queste attese. Ho un voglio di attese. Dai, però parla bene, facci sentire bene quello che vuoi, scusa, dire. Faccelo, allora, sentire bene, dai. Voi state scoprendo un mondo solo oggi. La Germania, sì, parlando di cose serie, è piena zeppa di Glory Hole. Vabbè, ma per me non c'è niente di strano. Io conoscevo benissimo Glory Hole. Ma che ne sai che in Germania è pieno zeppo di Glory Hole? Scusa. Sono andato un paio di volte, giri, guardi un po' su internet, vai nei. Tu sei gay? No, assolutamente. Vai, in Glory Hole esistono pure gli eter per gli etero, attenzione. No, ma io ho visto anche donne lì dentro. Sono andato a vedere un paio di volte dentro, ho visto anche donne. Cioè, sono fatti così, aspetta che ti spiego. Vai nei sexy shop. No, però aspetta, devi parlare bene. Togliti quello che hai, se c'è auricolari, no, se c'è. E allora parla bene, cavolo, attacca bene, non lo so, allora, che cazzo c'hai. Dai, parla bene. Vai nei sexy shop, sì, nei sexy shop normali. Sì. Hanno la saletta separata, cioè il Novum, che è una catena, l'Erotix, beh, l'Erotix tutti croci. Comunque vai in un separé, una porta blindata chiusa che tu paghi, sì, entri, sì, e sono tutte le videocabine chiuse e sono i Glory Hole fra di loro, i video e filmati dentro la videocabina, e tra loro comunicano, tipo cabine comunicanti, con lo sportellino che apri, Glory Hole, guardi chi c'è di là, chi c'è di là, vedo donne, uomini, di tutto, è divertente comunque. Ma questo dove? Anche in Italia? Anche in Italia? No, sei in Germania. No, ma ci sarà pure in Italia, ci sarà anche in Italia. Ma sono previsti, poi vengono a romperti i coglioni, ci sono locali, c'è questo, gente come di noi, poi prendono scandalo. Non si sente un cazzo, ho capito, abbiamo capito. In Germania esistono i Glory Hole a dei livelli pazzeschi anche nei sexy shop. Bene, Domenico da Bari. Buonasera. Vai, veloce, vai. Veloce, veloce. Quello che è andato in onda del meglio di Radio Calabria è stato esplicativo. Io voglio di che fare cosa? Solo... Esplicativo di che? della situazione dei leghisti in Italia. A me mi hanno rotto il cazzo, onestamente. Ma in che senso, scusa? Non li sopporto. Quando David dice chiudiamolo sto tendone perché vanno in onda queste cose, io lo capisco e lo, certo, insomma, lo appoggio. Ma lo appoggi in che cosa? Nello smontare che cosa? Il tendone del circo. Ma smontare, dai, cosa, Domenico? Di che parli? Di che per esempio, te, tu pensi esempio... di essere, tu pensi di essere migliore di quelli che intervengono alla Radio Padania? Sicuramente. Sei migliore di quello? Sei più degno? Sei più degno? Sei più degno di essere ascoltato? No, assolutamente, assolutamente. E allora? Io sto dando solo una mia opinione su quello che è andato in onda. E sul fatto di Poletti che chi dice, è Poletti? Chi è Poletti? Poletti chi? Quando all'inizio di trasmissione, perché è un'ora e venti che sono. Ah, quello là di cose, dici, quello è l'inviato, sì, là, l'inviato sì, di... esatto. Allora, Poletti, sì, e mio amico Poletti. Quando parla del fatto della nave degli immigrati, perché quando del traghetto degli immigrati che hanno fatto bordello, perché quando porti un ragazzino allo stadio non può succedere la stessa cosa? Sì, succede esattamente la stessa cosa, assolutamente. Anche lì bisogna andare giù duri, anche su quello. Quello, sì, assolutamente, si va su tutti i fronti, non solo con gli immigrati, infatti... Quando si va in trasferta in determinate zone d'Italia e sanno che tu sei del meridione, per esempio, io ho diversi, io non frequento le curve, non mi interessa il calcio, però diversi amici si sono trovati nella merda fino al coro. Vabbè, Domenico, Giampiero, Reggio Emilia, vai, chiudiamo, vai. Sì. Dimmi. Niente, io mi sono troppo divertito questa sera, grazie all'antenna della mia radio che si è rotta, e allora sento una strana zanzara, cioè? Sento te che dici, ma tu ci vai a puttane? Ma quante volte ci vai? Cristo pietà, Signore pietà, sì perché sono cazzi miei, mi hanno beccato i vigili e non avevo combinato un cazzo, Signore pietà. Cristo pietà, perché si vede che cioè, non ho capito che ogni tanto c'è la zanzara e ogni tanto è Radio Maria. Radio Maria, siete contigui a Radio Maria, la mia trasmissione non becca più niente. Ciao, allora Gian io Pierre. Ogni tanto sento voi e loro. Ciao, e quindi puttane e Radio Maria. Ciao. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Che non frega niente. Radio 24. Libera la voglia di fare.